solo chiacchiere distintivo. Qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Sei solo chiacchiere distintivo, chiacchiere distintivo. Sei solo chiacchiere distintivo. 22:45, minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa, 87.9 della banda romana e laziale e poi... In dub da Roma, Terni, Perugia. E ancora, se volete ascoltare il radio streaming da ogni parte, raggiunta dalla rete. Vi ricordiamo quello che è il sito di Onda Rossa, www.ondarossa.info. Per ascoltare cliccate su in diretta, per vedere come si fa a sottoscrivere per Radio Onda Rossa, per sostenere ancora questa radio. In attesa che presto parta la campagna di radio abbonamento per il 2026, però appunto andando su Sostieni, sempre sul sito della radio www.ondarossa.info, è possibile andare a scovare, a trovare, a leggere una paginetta intera dove sono indicate tutte le modalità per continuare a sostenerci. Dal 1977, senza padroni, senza padrini, senza pubblicità. Allora, questa sera non l'abbiamo nemmeno annunciata, accennata nelle puntate precedenti, anche perché è un mesetto che non ci facciamo vedere da queste parti, ma non metteremo musichette o quasi affatto. Come è consuetudine in questa ora, ma cercheremo di fare un esperimento, un salto indietro nel tempo. Ci accompagnerà con noi un compagno da Milano che fra poco metteremo in comunicazione. Ma non vi diciamo null'altro, perché partiremo a bomba, poi vediamo, gettiamo, come si dice, il sasso nella stagno. Ricordiamo sempre quelli che sono i contatti della radio. E cioè, oltre al sito www.ondarossa.info potete mandare le vostre comunicazioni alla radio tramite la casella di posta elettronica della radio stessa, 25oclock@ondarossa.info. Questo è il sottoscritto, ondarossa@ondarossa.info per le comunicazioni alla radio, 25oclock@ondarossa.info per molestare noi altri e ovviamente 06 491 750, numero di telefono di Radio Onda Rossa dal 1977. Dicevamo, se ce la facciamo, perché veramente se la voce ci assiste, visto che siamo afflitti, bersagliati da una tosse che non ci dà pace e quindi la loquela ne risente, però vedremo quello che riusciremo a fare in questa notte. Radio Onda Rossa fra poco riempiremo anche la borraccia piena piena, così sarà senz'altro più semplice. 614001 è il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001. Via dei Vosci 56, 00185, Roma, San Lollo. E così vi abbiamo detto anche il numero del conto corrente postale. Hai visto mai? Mentre ci comunica il fantasma che il gruppo di ascolto in quel de Roma Sud ci sta tutto, ma non vi aspettate il solito hardcore. Non so se siamo in onda, forse ce lo siamo perso, credo di sì, ci siamo perso. Pronto Andrea? Non c'è infatti. Allora, ci dovremmo essere, ci sei Andrea? E ci sono. Benissimo, ti sentiamo forte e chiaro e quindi innanzitutto ci salutiamo. Tu sei Andrea, un compagno di Milano che sta facendo un lavorone, ma non specifichiamo altro perché lo sentiremo direttamente e ce ne andremo un po' a spasso per il tempo, diciamo, questa notte qua di 25 o'clock. Vediamo se riusciremo. Nel frattempo salutiamo chi ha reso splendida la radio stasera con dei lavori di pulizia che manco proprio la ditta specializzata. E dicevamo Stefano? Sì, dicevamo che andremo a così a fare un salto un po' nel tempo attraverso appunto il lavoro che hai fatto te, però prima di appunto di parlarne il salto lo facciamo subito, se sei d'accordo. Sì, dimmi. Pronto? Pronto? Ci sei? Io ti sento. Io ti sento bene. Pronto? Sì, ti sento. Ah, ok. Era successo qualcosa che non eri più in diretta? Sì, ti sento piano adesso. Mi senti piano, aspetta. Va bene, sì. Mandiamo allora il primo spezzone, dai, come d'accordo. Ti sento sempre piano, però. Provo la Publi Radio, no? Cioè sono una socia fondatrice della Publi, ex Publi Eco, che poi vabbè era un SRL e dopo un'azione di forza dei lavoratori è diventata una cooperativa Publi Radio. Dunque voglio solamente rispondere al compagno che mi chiedeva della pubblicità, no? Cioè a me mi fa ridere, no? Quando si propone della pubblicità alternativa. Insomma compagno, pubblicità è pubblicità, è merda. Perciò o si accetta o si rifiuta in blocco, perché non mi dire che cioè è meglio fare la pubblicità al Feltrinelli oppure la pubblicità a prodotti o magari o a cose che fanno i compagni piuttosto che, non so, fare la pubblicità alla stampa. E ti garantisco anche che purtroppo si sono persi mesi in pubblicità, perché vabbè c'erano compagni che credevano nella pubblicità alternativa. Stava di fatto che vabbè si rifiutavano Fiorucci, si rifiutava la Rinascente, si rifiutava la Coca-Cola, si rifiutava Tauca, e invece magari si accettava Einaudi, che prima di pagarti passavano mesi e magari non ti pagava nemmeno, oppure Feltrinelli. E vabbè, superata questa fase in cui vabbè si chiarisce che a me mi viene da ridere, perché vabbè pubblicità è per compagni, però nello stesso momento in cui il compagno ti chiede di fare la pubblicità vuol dire che è una violenza, cioè sta cercando di imporre, no, ai compagni stessi di comprare delle cose che magari non si sognano nemmeno. come fa la Standard, come fa la Coca-Cola, come fa il Taranto e come fanno tante altre ditte, no? Però discussioni, tantissime discussioni, c'erano periodi in cui la Publi Radio, cioè, si veniva una volta a settimana proprio perché, cioè, non si andava avanti, no? Poi vabbè, c'è stato un periodo in cui ad alcuni compagni è venuta in mente l'idea che si poteva accettare qualsiasi tipo di pubblicità, no? Per esempio quello della Coca-Cola. Però c'era qualche compagno che diceva immediatamente dopo aver fatto la pubblicità, facciamo una trasmissione in cui si spiega, no? Che la pubblicità fa male, cosa c'è dietro la pubblicità e tutte queste storie, no? Però cosa vuol dire questo? Vuol dire che il mese prossimo tu la Coca-Cola te la sogni, no? Cioè la Coca-Cola non te la dà più, no? E pubblicità, e allora questo ha fatto perdere tantissimi mesi, perché purtroppo non si riusciva ad arrivare a una conclusione, no? E poi finalmente si è arrivata a dire che si doveva accettare, e nel momento stesso in cui si accettava la pubblicità, si doveva accettare tutta, no? E i compagni della Publi Radio erano coloro che la ricercavano. Poi, non solo, cioè le radio, dopo aver spiegato, io lo dico come la penso io e come ho cercato di spiegarla sempre ai compagni, no? Compito di una radio è anche far capire, no? Cioè tu quando gli ascoltatori dici che, cioè lo so che ti fa schifo fare pubblicità, anche a me faceva schifo andarla a cercare, no? Però se so, cioè se dietro questo andare a cercare la pubblicità significa che io do un mezzo ai compagni affinché gli arrivino i soldi, no? Che poi loro possono gestire o possono utilizzare per fare delle cose invece concrete, delle cose reali, allora benissimo, correggo tanto, ma ci vado anche a cercare la pubblicità, no? Cioè poi era anche carico della radio spiegare agli ascoltatori, perché poi c'erano degli ascoltatori che dicevano ma come, una radio in movimento, una radio che ha una linea, una radio che fa politica, adesso fa pubblicità. Cioè invece era compito della radio fare chiarezza, no? Cioè si doveva dire, si deve dire, perché tante radio dopo avergli fatto questo discorso l'hanno chiarito finalmente con i compagni e con tutti. Cioè la pubblicità è solamente un mezzo per raggiungere il fine. Cioè ben venga la pubblicità, cioè i soldi, ma chi fanno schifo? Cioè magari ce ne fossero tanta anche pubblicità, però vuol dire anche tanti soldi, vuol dire anche avere più mezzi affinché tu puoi fare delle altre cose. Oppure, non so, per esempio Radio Popolare ha la possibilità di avere 20 compagni stipendiati. Allora, pronto, ci sei? Sì, ciao Stefano. Ciao. Sei riuscito a sentire quello che abbiamo mandato in onda finora? Sì, allora ti sento un po' piano, però sì, sono riuscito a sentire, ma poi insomma li conosco questi brani. Allora, sì, no, tanto per essere sintonizzati sulla selezione, di cosa si parlava in questo brano? Ce lo vuoi collocare storicamente? Sì, ci provo. Allora, questo è il coordinamento delle radio di movimento che si è svolto a Roma, ospitato da Radio Proletaria, il 18 novembre 1978. E non so, dovrei fare una spiegazione che parte, insomma, da cosa sono le radio libere forse e cos'è la FRED? Sì, credo, no, diciamo, allora mi ascolti, sì, diciamo, ecco, così forse va meglio, sì, diciamo che cos'è la FRED, senza troppo approfondire, perché poi avremo modo mano a mano di collocare ogni audio, vediamo, poi alla fine vedrai ogni tassello verrà al suo posto, e se non verrà è uguale lo stesso. Ok, vai, allora, raccontaci cos'è la FRED. Ok, allora, nel 1976, a seguito di una liberalizzazione dell'etere, in Italia nascono, appunto, spuntano come funghi le cosiddette radio libere. Prima l'etere era solo appannaggio della RAI, sia televisione che radio, e invece con questa sentenza della Corte di Cassazione nascono, iniziano tra il 76, 77 e 78, nascono le radio libere. La vostra radio nasce appunto nel 77, come dicevi anche tu prima. E per rappresentare queste radio viene fondata proprio nel 76 la FRED, che è una... La sigla vuol dire Federazione Radio ed Emittenti Democratiche. Però questo organismo, diciamo che non funzionerà mai molto, molto bene, proprio perché al suo interno ci saranno delle forti spaccature, diciamo più che altro tra due correnti, cioè quelle radio che si riferivano al, più che altro come radio popolare, alla sinistra storica, e quindi che volevano, spingevano per un'istituzionalizzazione delle emittenti, e invece le radio come Onda Rossa, Radio Scervo da Padova, la Radio Alice a Bologna, che invece praticamente si stavano sviluppando come radio militanti, stavano dentro il movimento, e allora non bastava semplicemente fare informazione. Quindi c'è una divisione dentro la FRED: le radio di movimento, la maggior parte delle quali sono vicine ad Autonomia Operaia, però non tutte sono radio di Autonomia Operaia, cercano di coordinarsi appunto con questo coordinamento delle radio di movimento, che farà diverse riunioni, diciamo. Questo spezzone che abbiamo visto si affronta proprio la tematica della pubblicità. Abbiamo visto che anche dentro questo coordinamento c'erano quelli un po' più favorevoli alla pubblicità per finanziarsi, avere introiti per poter finanziare la propria radio, e quelli invece che come voi appunto sono sempre stati contrari alla pubblicità. Allora, sì, benissimo. Mi senti bene come livelli? Sì, ti sento piano. Sento piano, ma basso volume. A basso volume è una cosa particolare. Purtroppo non riesco ad alzare i livelli più di così, quindi niente. A parte, sì. Cerco delle cuffie poi dopo. Sì, semmai vediamo qual è la soluzione un po' più evidente, più facile. Okay. Dunque, dicevamo prima, perché poi appunto questa trasmissione in realtà è frutto di una serie di telefonate anche abbastanza così, non troppo esplicative poi come Andrea, però abbastanza lunghe, perché poi gli argomenti e le tematiche sono così importanti. Quello che era importante di quest'audio, lo dicevamo pure prima, era così la posizione di questa compagna di questa Pubbliradio, che appunto che poi era incaricata, come mi dicevi, della FRED, diciamo il collettivo che era incaricato per la FRED di raccogliere e di raccordare, diciamo, sia le pubblicità, a quanto ho capito, per quanto riguarda le radio, e sia anche un lavoro proprio di interscambio degli audio di ogni altro tipo di una sorta di rete in cui c'era questo collettivo che era incaricato di scambiare poi le informazioni fra le rare radio, i materiali audio veri e propri, che poi sono l'anima delle radio. Anche questa notizia andremo magari a verificare, o comunque più tardi o in un altro momento, insomma, con compagni che magari se la ricordano sta cosa, o compagne. Però quello che ci premeva dire appunto era questo intervento molto significativo per noi appunto sulla pubblicità, perché poi parlava appunto... No, ti sto sentendo sempre più piano. Sempre più piano, ok. Dimmi adesso, va meglio? Ma forse è la voce mia che sta calando proprio. Oddio, no, mi sembra strano, perché ho il viva voce e sto tenendo il telefono attaccato all'orecchia, ma ti sento troppo piano. Sento sempre più piano. I livelli sono molto, molto alti comunque qui, quindi vediamo casomai con la prossima interruzione se riesco a regolare meglio gli audio. La posizione diversa di due modi di vedere di vedere le radio è appunto quello di fare la pubblicità o quello di non farla, e venivano messe appunto in relazione Radio Popolare di Milano, che aveva già all'epoca 20 persone che percepivano comunque un rimborso, una paga per lavorare alla radio, e è appunto una radio come Radio Numero Rossa che di pubblicità non è mai fatta, e che comunque sono due radio che ci sono ancora, credo, in tutta quella rosa di radio appunto che venivano prospettate nella Fred e comunque nelle cassette che poi negli audio che andremo ad ascoltare, Radio Onda Rossa e Radio Popolare penso siano le uniche radio che ancora trasmettono ed esistono, sia in forma di FM sia in forma, in altre forme, appunto, dato che sono aumentate le modalità di poter ascoltare, di poter mandare, diciamo, in onda i contenuti delle radio. Sì, allora ti confermo, vorrei dire anche che Radio Popolare e Radio Onda Rossa rappresentano un po' tra i principali esponenti delle due rispettive fazioni, esatto, di cui parlavo prima, esatto. Radio Democratiche da una parte e Radio Militanti come voi dall'altra. Bene, poi lasciamo, ovviamente noi siamo da Radio Onda Rossa e le nostre scelte ce le rivendichiamo, però lasciamo a chi ci ascolta di voler giudicare poi cosa ha significato questa scelta e quali tipo di caratteristica ha comportato poi nel successivo sviluppo delle radio e quale tipo di collocazione politica anche. Io direi, se sei d'accordo, di passare avanti con l'audio successivo, perché ce ne abbiamo per 1:10, ci siamo sparati appena 6 minuti e quindi passiamo all'audio successivo. E qui invece, se lo vogliamo anticipare un attimo, stiamo parlando di allora me lo son perso, coordinamento delle radio, ecco. Come? Torreggiani. Esatto, poi magari parliamo della figura di Torreggiani, lo collochiamo storicamente, diciamo quello che era successo quel 16 febbraio del 1979, e per ora ce l'ascoltiamo, d'accordo? Perfetto, a dopo. Lui è sceso dalla macchina, è arrivato con la macchina di là, si è fermato dalla macchina qui, no? È sceso lui il bambino. Il bambino si è avvicinato lì per aprire il negozio. Nel tempo che lui era in piedi, ha cominciato a sparare di là, però io non ero più, sono venuto qui perché ho visto che la polizia aveva bloccato la macchina là in via Varchi. Là in via Varchi c'è la macchina che faceva parte di questo. Sì, però non hanno preso nessuno. No, perché in piazza avevano visto tre a scappare verso piazzato il Ponte della Gesù. Scappavano di là. Che età avevano? Non si sa. Come faccio a sapere? Mi ha detto che hanno visto che scappava. Lei dice una vendetta? Ma penso che sia. Per cosa? Qualche cosa per la uccisione che c'è stato là. Che sta, che la storia con la pizzeria, con la mezzanotte, che c'era dentro, succede quelle, no. Così che sono stati minacciati anche stamattina. Con nome, indirizzo. Gli manca il numero del telefono, che li avevano a pescare. Come c'era? No, ha detto così. È stata una rapina, perché aveva la borsa ancora, ce l'hanno lo zia. Non ha portato via niente. È una questione vecchia questa qui, è un affare che dicono che... Sì, è una vendetta. E poi anche il suo figlio Pierino, per cosa? C'entrava il povero ragazzo. Chi che dice la Ferichi, di nuovo, non so. No, dice che era in terra, però dice che se l'ha portato via perché perdeva sangue, per favore. Ma voi pensate sia un fatto politico? Niente. Si è arrivato a una televisione. Io tanti anni che conoscevo. Com'era? Un classo piccolo. Io lo confrontavo qui quando io ero così giovane, adesso ho molti anni che non vengo più, ma io andavo sempre qui. Qui dove? La gelleria? Sì, sempre. Che tipo era? Duro? Io non so se era duro sì o no, perché io non posso dirlo. I figli che li ha adottati non sono suoi, le tira di grande lei. E poi è una bravissima persona che faceva tanto bene ai poveri, a ogni associazione e così. Ma andava in giro con la pistola? Ma me la gatterà, che a momenti ti mancano il culo la pistola, se vuoi più camminare la madocina, scusa, chi è che te cano la pistola? Ostrica, sei più padrone degli fratelli? Io non ce l'ho. Prega signor che per massa minga, se mezzo di lui, ma mica una fifa del diarsi, se mi incaica dei navi, però poi un po' minga bunda e metti al mio Cristo. Lei quando l'ha saputo? Cosa pensate? Saputo alle 3:30. Mi è venuta su una vicina di casa mia che è andata a prendere la bambina all'asilo, me l'ha detto. E lei cosa ha pensato? Cosa deve pensare? Porpora gente che muoie, se lo deve pensare, eh? Ricordo tante tempo. Quanto tempo fa? Non gente so. Però sparare che era la gente, eh? Cioè Torre Gianni aveva sparato. Sì. Ah, ma lui l'ha sempre detto che lui sparava, eh. Solo che adesso mi pare che hanno ferito anche il ragazzo. Sì, il ma ragazzo. È suo quel figlio lì, no? Non è suo. Non so. Che si è preso dei ragazzi, non so, che... Era ricco questo paragone. Una bella... Poi... c'è qui. Dai! Sì, lui. Torregiani? Sì, Torregiani. E la Masà? Sì. Oh, mamma cara, che brutti sì. Robi! Ma chi ora la Masà? 3:30 hanno detto che... Le 3:30, ma è stata una rapina? Gli erano dietro a venire fuori dalla macchina, così mi ha detto una donna alla porta mia, perché io non abito qui. Stavano venendo per sì, aprire per e aprire. Sparato. Sì. E chi l'aveva sparato? Però, io non abito qui, io abito via Andrioli, mi hanno detto... Che vivono fuori da macchina, il figlio e lui l'ha sparato, il papà l'ha morto sul colpo, e poi il figlio no, figlio all'ospedale. A sparare, quella volta sul Corriere, mio di hai questi se tira a tre. Ma è successo da vicino alla mia nuora, lì a Porto Romano. Lascia rubare tutto, cosa ce ne frega, noi la vita la Valpissè che i gioielli, no? Ah, mi si è. Devo raccogliere delle impressioni qua? Cosa si dice? Ma io non lo so, sono appena arrivata. Sono avuto mezz'ora fa. Cosa credi? Cosa pensi che sia stato? Cioè il motivo? Ma una rapina non era, perché non è stata una rapina. Ma io penso che, cioè, siccome Torregiani aveva un bel po' di... aveva le mani un po' in parecchie cose. Uno di questi avrebbe potuto fare una cosa del genere, almeno credo. C'è qualche storia sua un po' strana? Non lo so, non so niente, perché io non lo conoscevo Torregiani. No, che aveva in mano in pasta un bel po' di cose. Tu che dici? Io non so niente. Per me è stato quello che l'ha ucciso, è stato quello della pizzeria. Quello che non una pizzeria, ma è stato uno, no, un rapinatore. Penso che siano stati quelli. Tu la sapevi già la storia o l'hai saputa solo oggi? No, io la sapevo. Cioè, sapevo quella pizzeria, sapevo anche altre. E cosa ne dici? Che posso dire? Allora, ci siamo. Ci sei, Andrea? Pronto? Eccolo, mi senti un po' meglio adesso o no? Sempre piano. E allora, ci siamo fermati ci siamo soffermati su questa audio che viene da Radio Popolare 16 febbraio 79 nel quartiere Bovisa, dove si trovava la gioielleria di Torregiani. Allora, vuoi collocare un attimo e quali conseguenze ebbe questo episodio, insomma, questo omicidio? Posso collocare? No, come vogliamo collocare meglio questo fatto di sangue, insomma, che ci fu a Milano nel 79? Ok, allora provo, premetto che non ti sto sentendo bene, però provo a parlare di questo. Sì, è quello che ti ho chiesto. Che abbiamo ascoltato. Allora, questo è, come hai già detto, mi pare tu, è sì. Parlavamo prima di Radio Popolare, questo è un bel servizio di Radio Popolare, che è stato registrato lo stesso giorno dell'omicidio Torregiani nel quartiere dove Torregiani aveva la gioielleria, cioè la Bovisa, che tra l'altro vicino dove abito io, non è molto importante, ma dico lo stesso. Allora, chi era Torregiani? È stato un fatto noto dell'omicidio Torregiani del 1979. Qualcuno, diciamo, i più anziani lo ricordano, quelli della mia generazione un po' di meno, però se n'è riparlato invece in tempi recenti. Battisti. Certo. Ok, mi stai sentendo? Perfettamente. Con l'arresto di Cesare Battisti, perché è stato un omicidio ad opera dei pacchi proletari armati per il comunismo. Torregiani chi era? Era un gioielliere durante un tentativo di rapina a Milano, mentre lui era al ristorante, lui è armato, estrasse la pistola e sparò a uno dei rapinatori uccidendolo. questo diventò un fatto di cronaca che praticamente diede una certa notorietà a Torreggiani, e quindi Torreggiani diventò, almeno agli occhi dei suoi assassini, diventò il simbolo di quei negozianti, di quei bottegai che si armavano e si facevano giustizia da soli. Allora, secondo me da notare, interessante da notare nello spezzone che abbiamo appena ascoltato, c'è il fatto che l'omicidio ancora non era stato rivendicato dai PAC, perché qui siamo proprio il giorno stesso dell'omicidio, e quindi la maggior parte degli intervistati pensavano che ci fosse stato un regolamento di conti tra i rapinatori del ristorante, la malavita che aveva rapinato il ristorante, e uno dei quali era appunto stato, come ho detto prima, ucciso da Torreggiani circa un mese prima. Poi dopo invece sappiamo che l'omicidio fu rivendicato dai PAC e c'è stata tutta un'altra storia. Sì, tra l'altro, diciamo, per quanto riguarda Cesare Battisti, è uno degli omicidi più che è rimasto, mi ricordo su Carmilla Online proprio c'era un po' il resoconto della storia, e diciamo Cesare Battisti avrebbe dovuto praticamente commettere due omicidi quasi in contemporanea, e quindi lui era nel comando che uccise, esatto, Lino Stabadini, non era, però ovviamente però gli erano accollato che... comunque va bene, è stato associato a questo perché Torreggiani fu l'omicidio più, diciamo, agli onori delle cronache, e quindi, però lui effettivamente non era in quel comando, era in quell'altro. Certamente. Però appunto poi andremo a parlare anche così, andremo a ricreare anche un po' di quella situazione proprio generale politica di quegli anni, e proprio poi quando andremo avanti con gli audio, in cui si parlerà proprio di penalità e di come appunto la legge reale e poi le leggi su associative praticamente in realtà avevano creato un'aberrazione proprio del sistema giuridico. Certamente. E ne avremo modo appunto di parlarne più tardi. Invece adesso andiamo un po' a svelare quella che è la tua figura, dopo che ci hai appunto illustrato. Allora, perché te fai un altro lavoro, forse in qualche maniera complementare, no? A quello che ti sei dedicato a fare. Allora, da quanto tempo hai cominciato a fare questo lavoro? Dove si può trovare? Di che lavoro si tratta, insomma? Aspetta, devo parlarti di come di mi te. Guadagno da vivere, no? No, no, come ti guadagni da vivere, ho detto, il tuo lavoro è in qualche maniera, il tuo lavoro con cui ti guadagni da vivere è collaterale a questo. Diciamo abbastanza è complementare, diciamo, non è complementare, non è supplementare, è complementare. Invece come ti salta in mente di metterti ad andare a scartabellare i nastri? Essenzialmente sono cassette, poi ecco, specificaci meglio che oggetti vai a toccare, a manipolare, dove li vai a prendere, come lo fai tecnicamente, e poi questo lavoro di valorizzazione è più che altro di... raccontami tu, dai, che cosa ti è saltato in mente a un certo punto, da dove nasce questa idea? Ok, allora, cerco di spiegarmi un attimo. Allora, io ho iniziato a raccogliere materiale da audiocassetta, sempre il formato che interessa a me è l'audiocassetta. E ho iniziato, allora, diciamo che lo faccio un po' da sempre, però nel 2019 io ho iniziato a digitalizzare tutto quello che avevo portato di mano, e che quindi la mia collezione più quello che mi passava tra le mani, più materiale che ho scovato su internet, sui vari blog, e ho iniziato a costituire questo archivio che ho chiamato Italian Tape Archive, che è un archivio digitale formato, costituito da materiale, solo materiale tratto da audiocassetta. E poi col passare del tempo praticamente è iniziato a diffondersi l'informazione che io facevo questa cosa, e quindi sono entrato in contatto, e tuttora continuano a contattarmi, o artisti, collezionisti, questo per quello che riguarda la musica, poi in particolare perché nasce come un archivio musicale, che mi allora questi mi mandano il loro file, loro, oppure mi prestano le cassette per permettermi di digitalizzarle e poi le restituisco. Quindi diciamo, o le sbobinano loro e quindi ti danno. Mi senti meglio adesso? Tante sì, volte. Sempre piano, però dai, mi sto abituando. Sì, ok. No, dimmi se va meglio. Io c'ho un ritorno ottimo, non so perché non mi ascolti. Quindi una parte, diciamo, del lavoro, alcuni allora sono due archivi. Quindi un archivio essenzialmente musicale, fatto di audiocassette musicali, e un e un archivio invece parallelo, che è l'archivio di così, delle memorie degli audio che sono stati prodotti, allora, essenzialmente dalle radio, ma non solo, comunque, no, perché poi si registrava anche assemblee spesso pubbliche, spesso dalle radio. Allora, questo avviene un po' successivamente, tipo qualche anno dopo, tipo negli ultimi anni, diciamo così, mi sono appassionato, ma molto, diciamo, fortemente all'ascolto e alla raccolta di questo materiale che abbiamo ascoltato, due esempi li abbiamo ascoltati adesso, è materiale, diciamo, politico, proveniente talvolta dalle radio, comunque materiale di movimento, e il periodo che mi interessa di più è proprio quello tra fine 70 e inizio 80. 76 abbiamo detto, nascono le radio libere, poi nei primi anni 80 diciamo che tutto questo humus culturale delle che si era sviluppato va un po' a morire, quindi poi dopo in seguito le cose mi interessano un po' di meno, però diciamo che questo è il materiale che raccolgo. In questo caso capita a me di andare in giro un po' per archivi e archivi di movimento o archivi anche genericamente parlando, e cercare di ascoltare quello che il materiale che hanno in cassetta, e se me lo consentano di digitalizzarlo. Mi è capitato adesso recentemente, poi cioè, nel senso, diciamo che da loro si girano sempre, quindi poi mi hanno contattato anche da Milano all'archivio negli ultimi mesi, questo autunno, un archivio di Milano che si chiama Bibliotorchi Interzona Caronia, e ho digitalizzato tutte le cassette che avevano, alcune mi hanno permesso di pubblicarle, e quindi volevo ringraziare Sara Taramolo e Giuliano Spagnoli di questo archivio con cui ho collaborato. Bene, bene. Quindi io passerei pian pianino al successivo audio che abbiamo preparato. Andiamo avanti e dovremmo essere, vediamo, in ancora noi. Ah no, andiamo in Sicilia. Andiamo in Sicilia, giusto? Andiamo in Sicilia. Un altro momento importante della storia di questo paese. Un altro momento importante, sì. Allora, qui questa cassetta, diciamo questo estratto che ascoltiamo, riguarda Peppino in passato. Questa è una storia, se Torreggiani un po' lo sapevamo, la storia di Peppino in passato, visto che la conoscono quasi tutti, sì. Perché perché sono stati fatti film, canzoni, spettacoli, insomma è una storia nota. Sì, poi penso anche per dire, noi alla radio ogni anno una telefonata giù in Sicilia la facciamo per ricordare la figura di Peppino Impastato, insomma, quindi anche da questa radio comunque sono quelle memorie che si preferiscono mantenere vive, altre invece si spengono un po' nelle nebbie del tempo. Vai. Certo. Allora, cioè quello che la storia la conoscono un po' tutti. Allora, io vorrei dare una contestualizzazione perché è importantissima. Allora, noi siamo durante il sequestro Moro. Quindi la storia si svolge durante il sequestro Moro. Peppino Impastato, come appunto sappiamo, era un attivista politico e forse soprattutto come voi era un conduttore radiofonico, sì, di una radio, di una di queste radio libere che si chiamava Radio House. Sì. Da queste radio praticamente non so come dire, sbeffeggiava i boss mafiosi della zona di Cinisi e viene ucciso. C'è anche un tentativo di depistaggio per cui si vuole far passare lui come presunto terrorista o come suicida, però queste cose durano poco, si capisce abbastanza velocemente che è un omicidio mafioso. Allora, il documento che andiamo ad ascoltare adesso è un documento che è stato registrato il 13 maggio 1978, ossia 4 giorni dopo la morte di Peppino Impastato. Probabilmente, ma direi quasi sicuramente, è opera di Radio Sud di Palermo. Mm-hmm. Quelli che sono intervistati sono i compagni che collaboravano a Radio Out insieme a Peppino Impastato. Ho riconosciuto Gian Piero Alafatta e Benedetto Cavataio, comunque quelli che lavoravano alla radio con lui. Sì. Allora, questa contestualizzazione appunto, secondo me, non so, aspetta, abbiamo due spezzoni su Peppino Impastato? Sì, no, in realtà ne abbiamo selezionato uno solo, che è quello dal... forse era fatto doppio, mi sa che c'era il primo, sì è vero, ha ragione, erano legati, avevo fatto due... avevo fatto un piccolo montaggio in cui avevo preso la prima parte, che ci darà anche così modo di riparare le orecchie, perché penso che ci sarà una piccola traccia musicale, e poi ci stanno appunto una prima parte di intervento e poi un secondo intervento, magari ne parliamo dopo, così l'abbiamo ascoltato ne parliamo dopo, e avremo modo. No, però prima di andare avanti con Peppino Impastato ti volevo invece fare un'altra domanda che forse ci eravamo un po' persi prima, se è vero che questi in precedenza già rispetto all'omicidio Torreggiani mi hai detto ci stanno però dei pezzetti molto interessanti dei ragazzini che la prendono quasi a scherzo sta roba dell'omicidio, e c'è, diciamo così, il tentativo, o comunque il redattore di Radio Popolare, insomma, che rimette un po', ricontestualizza la cosa, dice vabbè è morta una persona comunque, no? E quindi riaddrizza un po', dice proprio scherzare non è proprio l'esatto, il corretto comportamento. Dove è possibile, perché abbiamo detto che sono stati pubblicati, qual è la scelta delle piattaforme appunto dove sono stati pubblicati tutto quello che è il materiale che hai potuto digitalizzare, perché questo tipo di scelta, e appunto come fa un utente ad andarsi, qualora abbia delle curiosità, qual è la modalità con cui può andare a ricercare il materiale? Ah ok, grazie per questa domanda. Allora, tutto il materiale sta su Internet Archive, archive.org, lo chiamo così di solito, e sono più di 2000 file, li ho divisi tra materiale musicale, che è la maggior parte, e il materiale appunto diciamo politico o diciamo o radiofonico, se vogliamo, che comunque sono qualche centinaio di file, quindi sono comunque tanti, e li ho messi su archive.org principalmente perché a me interessa, come forse avrai capito, il fatto che per essere, per sopravvivere al tempo, siano divulgati e quindi siano scaricati su archive.org. Basta un con un clic tu ti scarichi l'intero archivio. Io anzi sollecito a farlo, che tutto quello che io ho raccolto stia non solo sul web ma anche sugli hard disk delle persone, in maniera che ci siano più possibilità che sopravviva al tempo, sostanzialmente. Secondariamente io carico sempre tutto su YouTube, perché comunque è forse uno dei motivi per cui poi il materiale viene conosciuto. È una piattaforma popolare, diciamo, per cui al di là poi delle proprietà è possibile, fino alla censura, insomma, no? Che poi è tipica. Il problema di YouTube è quello, che potrebbero chiudermi anche domani per tutti i motivi che metto su, e quindi... Però c'è una fruibilità più immediata, diciamo, ecco. Quindi sì, e poi YouTube si indicizza benissimo su Google, quindi certo, quando tu fai una ricerca su Google è più probabile che trovi YouTube piuttosto che archive.org. Quindi diciamo una archiviazione più di massa, più sicura, e con la specifica che chiunque voglia invece prendersi in parte o tutta l'archivio è ben accetto, non esistono appunto licenze di nessun genere su questo tipo di materiale, almeno sulla parte, poi non so, sulle cassette se ti hanno pure quello, magari sarebbe da chiarire meglio, ma lo faremo magari quando ascolteremo la musica. E se no invece appunto su YouTube, nel più classico dei modi che conoscono tutte e tutti. Bene, allora passiamo quindi a Radio Out, ma alle interviste ai redattori di Radio Out, compagni di Peppino Impastato, in quel 13 maggio del 1978. Dimmi. È la prima spezzone, giusto? Dovrebbero essere entrambi. Vediamo un attimo, vediamo che esce fuori. Non mi ricordo. Va bene? Eccoci qua. Ok. Adesso lo andiamo a ricercare. Aspetta. Eccolo qua. Mafia e Parrini si dettero la mano. Mafia e Parrini si dettero la mano. La mafia e i Parrini, eterna sanguisuga, sella sopra gli spatti e corda chinda fuga. Mafia e Parrini si dettero la mano. Mafia e Parrini si dettero la mano. Uno piazza la croce e l'altro punta e spara. L'uno menaccia inferno e l'altro la lupara. Mafia e Parrini si dettero la mano. Mafia e Parrini si dettero la mano. Sicilia quanto peni e pianto a cori rotto, la mafia e i Parrini t'hanno vestita a lutto. Mafia e Parrini si dettero la mano. Mafia e Parrini si dettero la mano. Siamo sordi o muti, rompemo sti catini. Sicilia voli gloria, né mafia né Parrini. Mafia e Parrini si dettero la mano. Mafia e Parrini si dettero la mano. Mafia e Parrini si dettero la mano. Mafia e Parrini si dettero la mano. Maggio 1978, siamo a Cinisi, un paese in provincia di Palermo, circa 6.000 abitanti. In questo paese è stato ucciso Peppino Impastato, un giovane comunista che aveva denunziato dai microfoni di Radio Auto, una piccola emittente libera locale, le manovre della mafia, le speculazioni e le complicità esistenti con l'amministrazione democristiana. Qui sono riuniti i compagni che hanno lavorato con lui, hanno combattuto con lui e hanno sofferto questa sua morte. A loro domando le loro impressioni, quello che hanno sofferto e chi era Peppino Impastato e informazioni sulla vicenda. Cioè, Peppino è un compagno che qui conoscevamo tutti, anche perché noi in prima persona ci stavamo assieme e ci lavoravamo assieme. Il compagno Giuseppe è così politicamente presente nella zona da 14 anni. Attraverso la sua carriera politica, così l'iter politico che ha caratterizzato la sua esperienza, cioè è stato presente in diverse organizzazioni, ultimamente era stato a Lotta Continua e poi all'interno della sua presenza a Lotta Continua avevamo iniziato assieme un'esperienza giovanile con una struttura di massa, qual era il Circolo Musica e Cultura, una struttura appunto che bene o male facevo un lavoro politico e culturale nella zona, quindi una presenza abbastanza positiva. Infatti attorno alla struttura eravamo riusciti ad aggregare vasti strati di settori giovanili. L'ultima esperienza che ci ha visto assieme a Peppino è stata quella della radio, che evidentemente ha funzionato come strumento di amplificazione e di informazione rispetto ai fatti sia a livello nazionale che a livello locale. Evidentemente parliamo di Peppino Impastato, parliamo della sinistra complessiva tra la sinistra rivoluzionaria e la sinistra storica. Che cosa hanno fatto? La sinistra storica, PC e PSI, sono stati assenti. Assente non basta, è una parola troppo semplice. Sono stati anche i loro gruppi dirigenti, sia del PC che del PC, coinvolti nella giunta comunale assieme alla Democrazia Cristiana, la quale va a difendere un certo tipo di interesse, no? E quindi la presenza dei gruppi dirigenti del Partito Comunista e del Partito Socialista significa, a mio parere, collaborazione, significa connivenza. Questo è un fatto molto grave perché uno per un motivo molto semplice, il fatto dell'abbandono reale della sinistra a una battaglia contro la mafia. Secondo è la premessa per riuscire a isolare una forza politica nella battaglia quotidiana contro la mafia. E queste sono state, la situazione che si è determinata nell'ultimo periodo, prima della morte di Peppino, delle forze politiche. Oggi cosa è successo all'interno di queste forze? C'è un dato così elementare, penso che tutti i compagni o sinceri democratici che sono in queste organizzazioni sono stati scossi dalla morte di Peppino Evidentemente ci sono state delle contraddizioni, specialmente nella sede del PC, perché il PC, a quanto pare, per motivi che noi sappiamo, no? Evidentemente c'è stato poco. Le contraddizioni sono state invece nel PC da parte di molti compagni, i quali avevano imposto un volantino il quale parlava esplicitamente dell'assassinio di Peppino Impastato. A quale livello è stato imposto il volantino? Da dove veniva questo volantino? Il volantino è stato imposto, diciamo, all'interno dai compagni di base del PC. Soltanto è stato respinto dalla federazione provinciale del Partito Comunista, è stato boicottato, non so, ci sono state delle contraddizioni che pure in un certo senso sono arrivate alle mani. Che contenuti aveva il volantino che volevano scrivere i compagni di base del PC? Sì, praticamente i compagni del PC di Cinisi volevano parlare fin dal primo momento dell'omicidio mafioso. E parlavano di Peppino come un compagno, evidentemente, anche perché chi lo conosce, chi è stato con lui, chi bene o male lo vedeva in giro, sapeva che Peppino era un compagno e non un giovane come è stato, un giovane qualunque come era stato definito dal comunicato della federazione regionale. Rispetto al volantino che è stato imposto alla federazione regionale, appunto ci sono state delle contraddizioni all'interno della sezione del PC. Il volantino poi in ultima analisi è stato soltanto distribuito dal segretario della sezione, dall'ex vice sindaco uscente, che è l'unico rappresentante del PC al Consiglio Comunale. I compagni del PC nemmeno, cioè quando hanno avuto il volantino, nemmeno l'hanno letto e l'hanno buttato subito per terra. Niente, poi l'evoluzione, così quantomeno le diverse posizioni prese nei giorni successivi dal PC a livello regionale sono state diverse e meno così silenziose o mistificatorie rispetto a quelle espresse dal primo giorno. Infatti, quindi la reazione da parte dei compagni di base del PC è stata utile, ovviamente, per portare un chiarimento. Ma non soltanto questo, penso che è stato determinante la presenza massiccia dei compagni di Palermo, che hanno discusso in due assemblee ad architettura, una il martedì sera e un'altra il mercoledì mattina. C'è la presenza militante durante il corteo funebre, infatti sono venuti da Palermo circa 1500 compagni e altre 200-300 persone del paese erano presenti al corteo. Si è accompagnato la salma di Peppino fino al cimitero, poi si è ritornati in paese in corteo, c'è stato un corteo per tutto il corso principale, si è concluso in piazza con un breve intervento di un nostro compagno. Evidentemente la presenza massiccia dei compagni, anche il fallimento di tentativi di coinvolgere da parte del PC la Democrazia Cristiana in un comizio falsamente unanimista e così, lo chiamavano loro di convergenze, cioè la Democrazia Cristiana rispetto a questa proposta del PC, cioè di esprimere pubblicamente quantomeno delle riserve o delle perplessità rispetto alla morte di Peppino, la DC ha fatto blocco, ha fatto marcia indietro, il PC è praticamente rimasto col culo per terra e si è anche autoisolato. Rispetto a questa sconfitta, che evidentemente è stata determinante, no? Il PC ha dovuto fare marcia indietro e evidentemente ha dovuto, anche con l'imposizione e la forza dei compagni, avvallare l'ipotesi dell'omicidio mafioso. Infatti in questo senso quantomeno delle riserve sono state espresse anche dal segretario regionale, mi pare, Colaiani, del Partito Comunista, che è andato dal questore chiedendo esplicitamente che si faccia luce su questo oscuro episodio, indicando evidentemente come strada da seguire quella degli ambienti mafiosi. Questa praticamente è stata la risposta dei compagni, cioè la prima vittoria ottenuta dalla risposta immediata dei compagni e massiccia, che appunto ha determinato il fatto che il PC ha dovuto rimangiarsi le posizioni ambigue e calunniatrici del primo momento. Cioè io invece non sono d'accordo con la tua versione completamente. Io dico una cosa, che molto chiaramente, che ci siano state le contraddizioni l'ho visto, ma che queste contraddizioni non sono riuscite evidentemente ad esprimere un livello superiore di, diciamo, di coscienza all'interno dell'organizzazione sinistra e in particolar modo nel PC. In effetti i compagni sono d'accordo, no? In maniera precisa sulla tesi dell'omicidio di Peppino Impastato, però non sono riusciti ad esprimere niente in maniera cioè praticamente la loro autonomia di pensiero non l'hanno espressa. Questo è un dato molto importante da non sottovalutare, cioè dimostra molto chiaramente qual è l'atteggiamento dei compagni, no? In questa situazione, che è un atteggiamento che rischia di diventare ambiguo e molto pericoloso. Questo secondo me bisogna prenderne atto, no? Per capire molte cose, evitare falsi trionfalismi, secondo me, che possono portare evidentemente a sottovalutare o sopravvalutare dei fenomeni che poi nei fatti li troveremo, diciamo, insoddisfacenti. Perché questo? Questo è importante per la continuazione della battaglia politica contro la mafia, no? Per riuscire a capire molte cose, no? Oggi è importante, diciamo, specialmente in Sicilia, capire che la battaglia politica contro la mafia il PC non la fa. È importante capirlo, e nemmeno il PC. È importante un'altra cosa da valutare in questo senso, che bisogna coinvolgere in questa battaglia politica i compagni del PC. Questo è un obiettivo da non dimenticare, e i compagni, diciamo, democratici, perché per quale motivo bisogna coinvolgere queste persone? Per creare al loro interno, diciamo, delle contraddizioni. Eccoci, ritornati in onda. Eccoci qua. Eccoci qua. Abbiamo ascoltato l'intero Peppino Impastato, diciamo. Sì. Posso... Un lungo audio che... poi farai le tue valutazioni anche più specifiche rispetto proprio alle tempistiche, al momento, eccetera. Però sicuramente ascoltando quest'audio, che è uno dei più interessanti, sono tutti molto interessanti, questo è uno dei più interessanti perché in 15 minuti, forse anche meno, insomma una decina di minuti, di spezzone abbastanza lungo, c'è un vero spaccato, diciamo, della politica italiana di quegli anni, di come si sviluppava a sinistra del PC, di quali dimensioni, di quale importanza aveva, di quali erano le relazioni, i rapporti, quindi fra tutta quella che era la cosiddetta all'epoca nuova sinistra, ma manco tanto, perché ormai stiamo parlando appunto della fine degli anni 70, quindi al momento, diciamo, forse di massima espansione, di massima capillarità di quel fenomeno politico. E, insomma, è un audio molto interessante, c'è anche una dialettica, no, fra poi le due persone che più o meno vedono da due punti di vista diversi quella che era le dinamiche che si erano verificate in seguito poi alle reazioni, insomma, e alle lotte, alla reazione dei compagni e compagni. Non si usava, bisogna dire assolutamente, lì la differenza di genere, c'era un plurale maschile no? Che era assolutamente non problematico per l'epoca, benché insomma i movimenti femministi fossero ben sviluppati. Comunque, insomma, è un po' questo. E soprattutto anche in luce è importante capire, anche per capire il fenomeno, i numeri, perché appunto si sta parlando, poi oggi per fortuna veniamo dalle grandi manifestazioni di questo autunno per la Palestina, in cui finalmente abbiamo rivisto i grandi numeri in piazza, però la capillarità appunto di quelli che era le organizzazioni della nuova sinistra, ma anche quindi la partecipazione alla vita politica, aveva dei numeri importanti. Insomma, stiamo parlando di Palermo, di paesini come cinesi, stiamo parlando di migliaia di persone, insomma. Vai. Pronto? Sì. Ok. Niente, volevo specificare solo questa cosa, che il contesto storico, come già in parte hai detto anche tu, era fondamentale e vince chiaramente nella seconda parte di questo audio, in cui praticamente siamo nel periodo del sequestro Moro, quindi tra sinistra storica, quindi PC, e quella che poi è definita la nuova sinistra, c'era un conflitto aperto, asprissimo, che si sente benissimo in questa, in queste, in questa, in questa registrazione, e forse erano in questo momento, proprio nel 1978, sono peggiori nemici, quindi giustamente, cioè nel senso, assolutamente i compagni della radio, di Radio Auto, non vogliono che il PC si intesti la questione di Peppino Impastato, che non era uno della, della sinistra istituzionale, e che, e appunto rifacciano il fatto che non abbia, che non abbia inizialmente parlato del PC di omicidio di mafia, che abbia definito genericamente, ho notato molto questo passaggio, che abbia definito genericamente, in passato l'abbiano definito un giovane, in modo così, sì, generico, sì, come se non fosse un compagno conosciutissimo per la sua attività politica. Ma quello anche probabilmente una certa forma di paternalismo, no? Per cui tutto quello che è, che effettivamente sono giovani, cioè è una generazione intera che a un certo punto esce, c'è, dai ranghi del, del Partito Comunista Italiano, giusti, a partire dal 68, giusti, effettivamente sono giovani, ma non gli riconosce l'appellativo, lo stato di compagni, ma semplicemente di giovani, vabbè sì, giovani, ma poi passerà, vedrà, insomma. Quindi c'è anche questa forma di paternalismo, quando non invece, come sappiamo, già qualche tempo prima, nel 77 eccetera, c'è proprio una forma di repressione di questo, a partire da dall'ama all'università, insomma, via discorrendo. Però c'è sempre questa, diciamo, questa doppia forma, questo doppio filo, no? Vai. Allora, condivido tantissimo quello, mi vorrei soffermare su quello che hai detto, perché lo condivido tantissimo. E la questione di cui ho appena, di cui abbiamo appena parlato, si può anche vedere come una questione generazionale, assolutamente sì. La questione tra il PC dei padri e la nuova sinistra dei figli, assolutamente, sono perfettamente d'accordo con te. Bene, allora, io qui tra l'altro ho fatto un errore, ho rimesso in stop invece che in pausa la, il lettore del file, però siamo pronti ad andare avanti, e andiamo, veniamo in casa nostra, perché adesso la ritroviamo, ci metteremo un attimo, chiediamo perdono, perché appunto abbiamo fatto la cazzata che abbiamo fatto prima, cioè di mettere in stop invece che in pausa il file, quindi ci sentiremo di nuovo un pezzettino di Peppino con un po' di come dire, di sperimentazione radiofonica. prendetela così, buttiamola in caciara. Però ci ascolteremo invece, veniamo un po' più ai giorni d'oggi, intervista del 13 ottobre 1980, siamo in ambito del processo 7 aprile, quindi andiamo ad affrontare un altro di quegli argomenti. Lo faremo sempre, diciamo, con leggerezza, nel senso, non andremo poi a infilare il coltello nella piaga. Parleremo un po' dei dati generali di quello che è successo. Vai, dimmi. Ok, allora, partiamo, come dici tu, dal processo 7 aprile, lo definisco brevemente, anche così. Teorema Calogero, processo 7 aprile. Per renderlo chiaro a tutti, appunto. Il 7 aprile perché è il 7 aprile del 1979 e c'è un'inchiesta che praticamente decapita totalmente i vertici dell'autonomia operaia. Quindi Toni Negri e poi Oreste Scalzone, di cui appunto ne parliamo in questo spettro, ma tantissimi altri, decine di persone vengono arrestate in quello che appunto verrà poi definito dai giornali teorema Calogero, come hai appena detto tu, Cioè è che sarebbe l'idea secondo la quale tutto il terrorismo italiano fosse come un'unica organizzazione e questa organizzazione facesse capo a Tony Negri e poi a scendere ai vari dirigenti dell'autonomia operaria. Allora, questo spezzone di questo nastro riguarda Oreste Scalzone, che è uno di quei dirigenti dell'autonomia milanese in questo caso, che viene arrestato con l'inchiesta 7 aprile. E qui Scalzone viene intervistato da una compagna di Radio A Onda Rossa quando, dopo aver passato un anno in carcere, è stato scarcerato, gli vengono concessi gli arresti domiciliari a causa delle sue precarissime condizioni di salute. Cioè, era arrivato a pesare tipo 40 kg, una roba del genere. E infatti lui viene intervistato dall'ospedale, credo il Policlinico Gemelli. Non sappiamo confermare, sì, prendiamola. C'è in qualche modo viene detto nella cosa, adesso sì. Però non mi ricordo io, comunque sì. Penso dal Policlinico. Allora, il documento, secondo me questo documento è interessante, uno perché è uno dei pochi documenti su Scalzone scarcerato tra il 1980, che viene appunto scarcerato, e l'81, quando poi rifugia in Francia. Sì. Allora, il documento secondo me quindi è abbastanza documento raro per questo motivo, ma documento interessante perché ascoltiamo uno Scalzone che è molto sfiduciato e diciamo percepisce questa scarcerazione niente affatto come una vittoria né politica né giudiziaria, questo dice espressamente, non è una vittoria, e lo ascolteremo, ed è convinto, e adesso possiamo dirlo che era convinto. Scusami, non so adesso se c'è questa perché io ho preso solamente l'audio, perché è un audio molto deteriorato, in questo non ci facciamo mai mancare niente, alla Radio Onda Rossa siamo la radio più scrausa che c'è. Te ti ricordi che c'è questo pezzo? Perché io ho preso solo la parte, la seconda telefonata. Tuo, quindi credo, mi basavo sul tuo. Perfetto, perfetto. Ci dovrebbe essere questa parte. E quindi stavo dicendo, è convinto, si capisce chiaramente, che è convinto dalle sue parole che la sua vicenda giudiziaria sia ben lontana da un epilogo. Infatti adesso, dopo tipo circa 50 anni, possiamo dire che effettivamente è stato così, avrà ragione. E infatti poi l'anno seguente tipo abbandonerà l'Italia, si rifugierà come tantissimi altri compagni in Francia sotto la dottrina Mitterrand e non tornerà in Italia fino a quando i reati attribuiti gli non saranno prescritti. Mi sono andato a vedere, quindi per alcuni decenni, nel 2007 mi sembra. Sì, recentemente, guarda, io mi ricordo, poi lo incontrai... Era dopo le manifestazioni, quelle con scontri a Piazza San Giovanni, quindi penso parliamo del 2012, e l'ho rivisto così e salutato nel 2012. Recentemente, 20 anni fa, però sì, diciamo che rispetto al 1980 è recentemente. Sì, poi vabbè, lui in realtà pare che comunque in tempo. Già venuto. Sì, non ha mai nascosto comunque di aver valicato il confine in maniera illegale, essere tornato nella sua Umbria e poi a salutare parenti e amici per poi ritornare subito in Francia. Però insomma, queste fanno parte di una di quelle tante vite, forse quella di Oreste, sì, dal rocambolesca pure quella, come si dice, il bancone dell'università scagliato dai fascisti sulla sua schiena nel 1968 fino appunto alla sua poi periodo più senile, diciamo, in cui ecco ritorna. Comunque dobbiamo notare sempre la buona loquela di Oreste, insomma, che comunque quando è intervenuto spesso interveniva adesso un po' di tempo che non lo sentiamo qui alla radio e lo salutiamo, anzi comunque sempre dotato di una spiccata loquela anche appunto nel caso in cui si trovava in queste pessime condizioni di salute ricoverato. Sì, qui purtroppo meno, perché sì, condizioni era sofferente, erano... certo. Sì. Diciamo, se no Oreste un'oretta se la fa sempre, insomma. Va bene, scherziamoci su, e adesso ce l'andiamo un attimo a cercare, perché ti ripeto, forse l'ho persa, vediamo un po' un attimo insieme a te. No, ci dovremmo essere. Questa è la voce, crediamo, di Antonella, ma eccoci qua. E tutta la vicenda della battaglia sul 7 aprile. Ecco, io vorrei dire una cosa che non so, forse se è dedicata al mio stato, ma non credo, che non vuole essere una doccia fredda. Ecco, io credo che non bisogna essere troppo ottimisti, nel senso che c'è tutto moltissimo da fare, cioè credo che la scarcerazione di Franco e Lanfranco, o per esempio lo scagionamento di Torri Negri, dalle accuse che gli facevano rispetto a Moro, siano quelle sì un colpo all'orribile macchina del 7 aprile. Ma rispetto al mio caso sono più pessimista, perché qui c'è un dato obiettivo, cioè credo che qui c'è potrebbe essere un errore di ottica scambiarlo troppo per un elemento di vittoria, perché c'è questo fatto che io sto veramente molto male, credo più di quanto al limite i compagni pensino o io stesso pensassi, me ne sono un po' accorto qui, così dall'atteggiamento, dalle occhiate da mezze parole dei medici, l'ho capito dalla preoccupazione di tutto l'ambiente ospedaliero, dalle cure che vengono fuori, e da questo punto di vista quindi credo che l'elemento che c'è, che ha costretto probabilmente a prendere questa decisione, è proprio questo dato oggettivo, capisci? Il fatto di e certamente rispetto a questo tutta la mobilitazione, l'informazione, la campagna ha avuto un'importanza, però da questo punto di vista, ecco, io credo che sul 7 aprile c'è tutto da fare e che in questo momento forse essere ottimisti potrebbe, come dire, essere sbagliato, no? Cioè se io penso appunto a come sono ridotto io, che sono abbastanza credo irriconoscibile fisicamente a chi mi conosce bene, penso che probabilmente appunto ci sono degli elementi di materialità che hanno reso quasi impossibile non prendere una decisione del genere, e quindi in questo senso bisogna pensare che invece su tutta la vicenda, su tutto il caso 7 aprile c'è tutto da fare, o comunque c'è tanto da fare, ecco, questo voglio dire. Certo, comunque dimmi. Cioè c'è in questo senso quindi un accento pessimistico, non credo che sia così soggettivistico, ma credo che sia un fatto così abbastanza di realismo, ecco. Va bene, certo, sempre tenendo, penso che possiamo condividere questo che sì, sempre tenendo presente naturalmente, come hai ricordato anche tu, il dato della mobilitazione, della informazione rispetto appunto alle due condizioni, che comunque non è mai stato scisso poi da tutta la vicenda politica del 7 aprile, almeno appunto, e che il fatto che questa tua liberazione non è certo un regalo che ci viene fatto né al movimento né a te, non è una cosa che ci siamo conquistata, penso, tutti insieme duramente. Senti, vuoi ripetere quella cosa che mi hai detto anche prima in privato sull'orario? Penso che i compagni interessi. Siccome appunto a me fa veramente piacere così vedere i compagni, ricevere visite eccetera, perché così come ho visto come sono state importantissime anche nelle condizioni terribili in cui mi sono trovato, le lettere, i telegrammi, le cartoline che sono arrivate, volevo dire una cosa tecnica, che qui io non so quanto tempo starò, tempo abbastanza indeterminato, perché si tratta appunto di provare a risalire delle condizioni fisiche compromesse in modo fortissimo. Volevo dire che qui all'ospedale ci sono alcuni orari che vincolano un po', nel senso che le visite dovrebbero essere tra le 14 e le 16, tra le 2 e le 4 del pomeriggio. Comunque sulle 16 si è abbastanza elastici, ma il problema sarebbe di non venire prima delle 14, perché non lasciano entrare che ci sono le visite in giro. Lo volevo dire perché siccome qui è lontano, magari uno prende i mezzi o attraversa mezza Roma e poi si trova a non riuscire ad entrare, e questo mi dispiacerebbe, che quindi di non arrivare prima delle 2, perché c'è appunto questo problema dell'orario delle visite, che 14-16 e comunque dalle 14 in avanti. Va bene, volevi aggiungere qualcosa, Orazio? Un abbraccio per tutti e un grande ringraziamento. Va bene, ti baciamo fortissimo tutti ancora una volta. Grazie. E ci vediamo presto. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao. Eccoci, ci siamo di nuovo. Eccoci qua. Eccoci qua. Quindi anche uno pezzone in cui appunto Oreste poi non ha essenzialmente, insomma, è uno spezzone di piccola umanità, come tanta abbiamo saputo produrre qua dalla radio, no? E continuiamo a produrre, insomma, in tanti anni in cui non c'è solo una comunicazione di tipo così dottrinario politico, ma alle volte appunto semplicemente il desiderio di essere di calore umano che può essere necessario, no, in qualche momento, o magari di denuncia di sofferenza. Ricordiamo, ci fu un periodo intorno a forse intorno a i primi anni 2000 in cui le telefonate alla radio erano ad esempio moltissime, avevamo aperti i microfoni e avevano i cellulari alle persone detenute dentro i CPR, che chiamavano molte volte e ci descrivevano proprio che chiamavano sovente in alcuni orari, ma anche in orari, diciamo, non preventivati. Interrompevamo le trasmissioni per dargli voce, e molte volte denunciavano invece atti di autolesionismo che stavano appunto, mentre ci chiamavano, proprio stavano compiendo, insomma. E così anche con grande nostro imbarazzo, perché poi in realtà erano telefonate e testimonianze difficili da da gestire in qualche maniera, se era giusto o no far passare comunque questo tipo di messaggio, fermo restando appunto che ci telefonava lo faceva per quello, quindi era cercare di destriarsi, insomma, in questo incastro. Hai qualcosa da aggiungere su questo audio? Allora, sì, confermo quello che hai detto, scusami, sulla questione dell'umanità, poi non ho sentito più nulla, quindi non... No, ok, va bene. No, ma anche perché praticamente mi è calata la voce e non sono riuscito a dire nulla, ecco, quindi tranquillo. Ah, ok, no, ma proprio è una questione tecnica, sì, penso. Sì, un po' una questione tecnica, ma anche una questione proprio di grugniti che ho fatto in mente. Non ti preoccupare. Invece no, vogliamo passare all'audio successivo perché parliamo ancora di Radio Onda Rossa. Eh sì, questo è l'ossessione che forse, anche sicuramente, riguarda più da vicino Radio Onda Rossa. E allora, noi siamo qui siamo nel giugno 1980, Radio Onda Rossa, allora questo è un documento importante perché è un momento estremamente difficile per la radio, che è stata chiusa da gennaio mi pare 80 fino a ad agosto del 1980, tipo qualche mese. Sì, ci dovrebbe essere comunque le date precise anche sul sito della radio, c'è un meme sul sito della radio, sì. Mentre allora, parli lo vado a cercare. Com'è? Mentre parli lo vado a cercare. Sì, io l'avevo visto su Wikipedia, penso da gennaio ad agosto 1980. Sì. Comunque qui si parte da questa formazione dei compagni di Radio Onda Rossa che viene riportato dall'Espresso ed è la seguente. Il terrorismo ha spinto nel tunnel la lotta di classe. Benvengano tutte le iniziative che possano far uscire da questo tunnel. È un momento delicatissimo appunto perché Radio Onda Rossa è stata appunto chiusa, i dirigenti di Radio Onda Rossa arrestati, il contesto politico in sé è delicatissimo perché appunto il terrorismo di cui si appunto parla in questa citazione che ho appena fatto stava per essere sì sconfitto, ma penso che questi primi anni 80 sono gli anni in cui si uccide di più, in cui il terrorismo uccide di più ed è sempre più gli omicidi sempre più insensati, sempre più immotivati, se vogliamo, anche per quanto lo fossero anche quelli di prima, ma sembra una spirale che continua ad alimentarsi su se stessa. E dall'altra parte abbiamo la repressione dello Stato che dal 7 aprile in poi, di cui abbiamo parlato prima, aveva messo in prigione, in galera, un intero ceto politico. E la chiusura di Radio Onda Rossa si inserisce in questa repressione da parte dello Stato. E quindi diciamo che in questo momento, cioè nel giugno 1980, Radio Onda Rossa si trova tra queste due cose, terrorismo da una parte e repressione dall'altra. E quindi diciamo tutta la difficoltà di continuare ad avere una posizione politica in questa situazione. Nell'estratto che ascoltiamo adesso, il compagno di Radio Onda Rossa, era chiusa in quel momento, viene intervistato da Radio Blackout di Milano. Allora, la radio è chiusa dal 22 gennaio fino ad agosto, appunto poi la radio normalmente è chiusa, non lo so se appunto a fine degli anni 70 fosse rispettato questo tipo di, già all'epoca io appunto sono entrato più tardi, quindi comunque sì, una chiusura estiva è stata sempre rispettata, quindi agosto ci sta che non ci sia la data precisa perché è appunto... Però, diciamo che giugno sarebbe dovuta essere aperta. Sì, no. Dunque, invece, quello che volevo aggiungere è proprio data l'incertezza che appunto noi stessi non riusciamo a risolvere rispetto a tante vicissitudini storiche. Io credo che tra l'altro, poi nel podcast della trasmissione indicheremo anche eventualmente tutti i contatti. Però c'è bisogno anche di un feedback al tuo lavoro, cioè te nello stesso tempo in cui pubblichi con tanta buona volontà tutti questi materiali appunto salvandoli all'oblio, allo stesso tempo però vorresti contestualizzarli meglio, precisarli, aggiungere dettagli, qualora o dove è desiderio anche delle persone che per fortuna per la maggior parte sono ancora in vita, volessero appunto arricchire comunque queste pillole, questi elementi di memoria, questa assolutamente anche mia premura a fare questo, cioè nel senso di dare più contestualizzazione e più dettagli possibili. Quindi appunto ci proponiamo che invitiamo tutte e tutti, qualora appunto avessero ascoltato uno questa trasmissione, due andassero a scartabellare nell'archivio di Andrea che sta mettendo su, oltre che quindi a arricchirlo con nuovi documenti di cui senz'altro e abbiamo bisogno tutti quanti, quindi ampliare ancora di più e diffondere l'archivio, anche precisarlo meglio, quindi anche contestualizzarlo, aggiungere elementi, anche aprire in qualche maniera dibattiti, cioè criticare magari quello che è scritto e precisare invece cosa si intendesse, precisare appunto cosa si intendesse politicamente, magari in cose che sono state interpretate male, nelle brevi descrizioni appunto dei materiali, di contattare appunto Andrea, di contattarci alla radio. Comunque metteremo appunto, ci premuriamo di mettere poi i contatti sul podcast e magari vediamo anche sul sito della radio, vediamo adesso come meglio organizzarci per questa cosa, proprio per far vivere questo archivio. Allora, quindi andiamo a Milano, sì. Vai. Sì, allora aggiungo questo piccolo dettaglio che appunto questa registrazione che ascoltiamo, la citazione che ho fatto prima, si riferisce a un articolo dell'Espresso di giugno 1980 che citava anche Radio Onda Rossa, quindi io sono andato in emeroteca a cercarmelo e poi l'ho condiviso, sta nel link, si può trovare nel link il link sulla descrizione del video e quindi abbiamo, come giustamente hai detto anche tu prima, adesso abbiamo un po' il contesto storico di questa cassetta e l'articolo dell'Espresso a cui viene fatto riferimento, in cui si parla di diserzione dal terrorismo, che adesso è una roba che non ci è tantissimo chiara, però allora nel giugno 1980 era una proposta reale fatta dal PSI, mi pare. Sì, poi appunto il compagno, roba che si trova nell'articolo. Il compagno va a criticare proprio il termine diserzione, perché per diserzione lui intende un'altra cosa, però era, diciamo, il punto di partenza su cui lavorare. Effettivamente tra l'altro c'era anche probabilmente un fraintendimento con l'Espresso, perché come diceva il compagno di Radio Onda Rossa, lui si riferiva a una proposta di amnistia e nell'articolo viene presentato come se si fosse riferito a questa proposta di diserzione, cioè questo, diciamo, misunderstanding, comprensione probabilmente da parte dell'Espresso. Bene, dai, andiamo all'ascolto. Allora, noi abbiamo visto una serie di proposte che tu prima mi citavi leggendomi questi stralci, insomma, la più interessante, nel senso che probabilmente ha la maggior coerenza da questo punto di vista, è probabilmente quella della sinistra indipendente e dei socialisti, no? Cioè quella che tende a depenalizzare i reati associativi, nel senso che dice che chiunque si presenti prima ancora di essere arrestato e sostanzialmente appunto si consegna, diserta, depone le armi, gli viene, diciamo, levato il reato associativo, cioè viene giudicato e condannato per il solo reato che ha commesso. Perché fino a questo momento abbiamo avuto un elemento per cui se prendevano un militante qualsiasi, una elezione clandestina che dava solamente volantini, gli veniva attribuito tutto il dossier, diciamo, sulle loro spalle, insomma, no? Per cui tutta, diciamo, l'attività della colonna per la quale questo militante dava i volantini, diciamo, gli era sopra, quindi era un ergastolo comunque assicurato. Questo è interessante, però anche una volta è ambigua, perché come fa uno a dimostrare di aver fatto solamente quel tipo di reato per il quale deve essere, può essere processato? No, ma poi magari ha fatto questo tipo di reato e decide comunque di uscire e di non c'entrare niente con, non so, un'organizzazione tipo Prima Linea, per cui c'è anche questo problema. No, ma cioè, si introduce ancora una volta il problema della dilazione, perché se io ho fatto solamente una cosa per dimostrare alla magistratura che ho fatto solamente queste, devo dire chi ha fatto quelle altre, va bene? Quindi sostanzialmente istituzionalizzo in maniera, diciamo, politica il problema della delazione, quella giudiziaria, cioè quella di mandare in galera sostanzialmente la gente, quella di collaborare dal punto di vista repressivo con le forze dello Stato. Quindi, diciamo, su questo è certo che se si vuole legare il problema dell'amnistia a un problema di, ancora una volta, del ricatto nei confronti dello Stato, qui sostanzialmente non solo non si capisce il problema, ma si ritorna appunto dentro la forca caudina della brutalità dello Stato, perché sostanzialmente non si può nascondere che innanzitutto i carceri sono pieni, certo, di militanti clandestini, ma di migliaia di compagni di movimento, cioè dei compagni che non, cioè ai quali è stata appiccicata in maniera posticcia, voluta, dentro un clima di antiterrorismo, diciamo, una pratica che non gli appartiene, un modo sostanzialmente di affrontare le contraddizioni sociali che non appartiene a quei compagni, che ancora una volta ha voluto appiattire tutto. Ci sono compagni del movimento in galera per antifascismo, in galera per occupazione delle case, in galera perché hanno fatto informazioni militanti o perché certamente hanno prodotto, diciamo, livelli anche di violenza dentro grossi momenti, diciamo, di massa, che oggettivamente vanno riconosciuti come metro di misura e come modo diverso dalle organizzazioni clandestine di affrontare lo scontro di classe. Ecco, il tentativo di azzerare tutto da questo punto di vista, magari recuperando con un tentativo di depenalizzare magari gli atti associativi, non tiene conto di questa cosa e di fatto significa appunto il tentativo di azzerare, di appiattire sostanzialmente tutto questo tipo di contraddizioni. Oggi io non so se in questo momento, cioè si pone senz'altro il problema di trovare una soluzione perché finisca questo meccanismo per il quale la magistratura, sganciata ormai come corpo separato dallo Stato, completamente come corporazione a sé stante, scatenata addosso al movimento rivoluzionario, schiaffa in galera senza nessun problema decine e decine di compagni, decine e decine di latitanti. C'è la mano libera della massima brutalità poliziesca da questo punto di vista. Oggi una soluzione a questo tipo di problema politico, che certamente passi come interlocutore per le forze del movimento, per i compagni dell'autonomia operaia, ma che arrivi fino a rimbalzare fin dentro coloro i quali oggi debbono riprendere a fare i garantisti, cose che hanno smesso di fare da un po' di tempo a questa parte, accettando a loro volta il ricatto che lo Stato faceva loro. Questa cosa certamente va posta all'ordine del giorno, perché o si sblocca questo tipo di situazione oppure qui andiamo avanti sostanzialmente all'infinito. Comunque, a dire che cioè, quello che dicevo all'inizio è che ci muoviamo dentro un terreno che ancora una volta è appunto stretto da un clima di pesantezza come questo, no? Per cui certamente no, ma non soggettivo, ma no, diciamo, politico al pentimento che porta al resto degli altri, cioè alla collaborazione, no? Perché questo significa anche politicamente così dire è finita la lotta di classe, consegno tutto nelle mani del nemico. Anche se su questo però va aperto ancora una volta un dibattito, perché qui io credo che è troppo comodo dire quello è un infame. Certo, è un infame, perché uno è un pesce che parla, che scompagina un'organizzazione che ha sulla coscienza come ha cominciato: 5 morti, 4 via Fracca e 1 Arnaldi. Certamente è un infame, cioè uno che si è arruolato con il nemico. Però qui il problema politico, allora, di discutere ciò che si è vissuto politicamente dentro un'organizzazione clandestina e anche il rapporto, il ruolo del militante dentro questo tipo, diciamo, di... Allora, stavamo dicendo che va appunto, cioè vuol dire che sostanzialmente poi è vero che colui il quale viene arrestato, è vero, no, gli viene fatto un trattamento da tortura perché non ha appunto nessun tipo di garanzia, viene sequestrato effettivamente, ci sono episodi, casi, non solo il container, ma pure, diciamo, torture proprio. Noi che sappiamo che per esempio uno degli ultimi arrestati BR o presunti tali a Roma è stato tenuto senza mangiare 3 giorni, poi è stato due giorni con un piatto di minestra, poi gli hanno centellinato l'acqua, cioè sono proprio livelli sostanzialmente di istruzione fisica, diciamo, su queste cose. Però su questo anche viviamo evidentemente il momento nel quale, proprio grazie a questo tipo, diciamo, di cappa di piombo, insomma, cioè di militarizzazione anche della vita sociale, anche affermare queste cose, denunciare queste cose diventa evidentemente un problema. Ma al di là di questo, colui il quale poi tradisce sostanzialmente i propri compagni, li manda in galera, anche quello bisogna capire, insomma, che appunto che tipo di vita, di percorso politico, di spazio, di capacità, di intelligenza è data a un compagno dentro un'organizzazione tipo l'IBR, per esempio. E allora, al di là del fatto, cioè, è facile quando Micheletto dice l'abbiamo cancellato dalla storia, vabbè, l'avete cancellato dalla storia, ma qui il problema è che bisogna capire e discutere se sostanzialmente quello poi non è un figlio, cioè non è un prodotto, vuol dire, anche di una pratica che vive dentro un'organizzazione di tipo clandestino. Se, vuol dire, con questo, senza voler dare evidentemente spazio a nessun tipo di moralismo cattolico tipico dei compagni della redazione di Lotta Continua al giornale, da questo punto di vista, però è anche vero che se da un lato ha vissuto all'interno, per esempio, anche il movimento del 77, una pratica politica che unificava di per sé stesso la figura sociale del militante, i propri bisogni, la propria capacità di vivere, cioè la propria autonomia anche soggettiva di vivere la politica, e dall'altro invece come pratica separata ha vissuto all'interno di una strategia completamente diversa, un tipo evidentemente di mentalità da esercito, da guerra, di compressione assoluta del proprio personale, a misura in cui il nemico ti acchiappa e tu ti crolla oggettivamente tutta una meccanica, un mito, un modo artificioso, diciamo, di vita dentro queste cose, a quel punto è incontrollabile, cioè, evidentemente le reazioni sostanzialmente di un compagno, di un militante, insomma. E qui parliamo di una figura al di là, diciamo, della strategia di tipo politico. Allora, eccoci. Beh, qui è certo, ci sarebbe da parlare per mesi, diciamo, rispetto a questo tipo di tematiche che sembrano così lontane, no? Però non so, quello che mi viene in mente commentare è avendo vissuto, diciamo, non da protagonista assolutamente quel periodo lì, ma da testimone, diciamo, troppo piccolo per poterlo capire fino in fondo, però sicuramente in questo paese si era messo in moto un livello di scontro di assalto, diciamo, al cielo, probabilmente più nelle forme di assalto al cielo che in una forma di effettiva strategia politica per la presa del potere. Mai c'è stato questo, né da parte delle formazioni armate né da parte dei movimenti, diciamo, più generalmente detti, benché si diceva, appunto, magari si proclamava questa cosa, in realtà non c'era nemmeno un mattone costruito sopra uno sopra l'altro per questo tipo di prospettiva, anche appunto poi così avendo vissuto di riflesso quel periodo, però allo stesso tempo appunto questa cosa qui solo dimostra quanto appunto il teorema Calorgino fosse campato per aria, insomma. Questo è un compagno della redazione di Radio Onda Rossa dell'epoca che fa una critica niente male, no, a quella che era la struttura stessa delle formazioni armate, un dibattito che è rimasto aperto per tanti anni ancora, ecco, insomma. Sì, ci sono, hai intuito quello che blateravo? Più o meno, diciamo, non benissimo come al solito, purtroppo. Va bene, scusa, niente, no, dicevo semplicemente appunto di quanto fosse aperta la dialettica, insomma, all'epoca, fra chi aveva scelto la lotta armata e chi invece l'avesse preferito invece la lotta di massa, e di come fosse appunto ci fosse una dialettica politica molto aspra e allo stesso tempo però una necessità di interlocuzione, comunque appunto di non lasciare questi compagni che avevano scelto la lotta, che erano colpiti dalla repressione, che avessero scelto la lotta armata o meno, in balia appunto di quell'apparato repressivo che si andava sempre più... Assolutamente, assolutamente. Io penso che tra l'altro la difficoltà del compagno di Onda Rossa sia da una parte solidarizzare perché si stava a un certo punto dalla stessa parte, dall'altra differenziarsi, e in questo diciamo che era molto difficile prendere posizione. Penso che in questi anni non mi sarebbe piaciuto essere al posto dei compagni di Onda Rossa, che insomma ovviamente non potevano sottoscrivere quello che facevano le formazioni armate, ma d'altro canto non potevano neanche fare finta che non si era mai stati insieme. C'era una situazione molto difficile. Ma comunque c'era stato anche un certo tipo di travaso poi proprio di militanti dall'una e dall'altra parte verso ritorno, c'era comunque un substrato sociale che era quello, insomma, era questa insurrezione, comunque questa salta al cielo che comunque produceva questo tipo di... A un certo punto appunto si è pensato, molti hanno pensato che la lotta armata fosse, diciamo, la scorciatoia giusta per arrivare a rompere alcuni meccanismi di potere. Ti ripeto, un dibattito tuttora aperto, anche se ormai è più materia da storici che da militanti, però guarda che è una roba che c'è stata fino a 20 anni fa, grosso modo, non molto dopo questi audio. Bene. Certo, comunque, e si stava nelle due diverse concezioni, comunque si stava fianco a fianco. Sì, comunque sì, insomma, ci si diceva di tutto, insomma, non è che non si era molto teneri, non si era mai stato, non si era nemmeno fra le organizzazioni, fra i vari, anche fra declinazioni di quello che era del movimento dell'autonomia operaia, cioè si piava assediate spesso e volentieri, insomma, non era una modalità, un modo così dialettico che è sempre appartenuto, però perlomeno ecco, su una cosa bisogna dire, si era franchi, si diceva la verità. Dunque, bisogna dire, scusa, non c'è la verità, si era franchi. Certo. Sergio Spaziali, quindi qui andiamo su una cosa abbastanza divertente. Stiamo parlando di un convegno che prende spunto da un libro di Giorgio Bocca, che è comunque presente, sì. Noi non lo sentiamo qua, ma no, è presente, il primo audio è il suo, sì. Chi volesse ascoltare sì, anche l'intervento di Giorgio Bocca può ascoltare per intero quello che è l'audio, appunto, qui di cui qui prendiamo uno scampolo. Vai. Allora, introduco innanzitutto, prima di introdurre il convegno, la figura di Sergio Spaziali, perché questo probabilmente non è nota a tutti. Allora, Spaziali era un avvocato ed era, anche se torinese, era uno dei personaggi di spicco del movimento a Milano, era uno dei leader di Soccorso Rosso, che era appunto questa associazione che si occupava dei detenuti politici in particolare. Ed era nel 1978, cioè l'epoca di questa registrazione, era avvocato di alcuni brigatisti rossi. Come diversi altri avvocati, poi fu lui stesso incriminato, passò anche qualche tempo in galera e, come tanti altri compagni, abbiamo visto prima Scarzone, anche lui riparò in Francia sotto la dottrina Mitterrand, e lui in Francia ci morì senza più tornare in Italia, credo perché morì negli anni 90, quindi quindi rimase, passò il resto della sua vita in Francia. Allora, io amo questa registrazione, è appunto, siamo nel 1978, siamo freschi di sequestro, omicidio Moro, perché diciamo è la seconda parte dell'autunno 78 più o meno, adesso non sono riuscito a datare bene il mese. Viene presentato il libro di Bocca, che è Terrorismo Italiano, mi pare 1970-1978, questo era il titolo preciso, e qui diciamo che Spazzali fa il suo intervento sul libro di Bocca e sulla situazione in generale, e diciamo che mostra le sue, secondo me, che apprezzo molto questa le sue capacità di affabulatore, in cui usa anche il tono ironico paradossale, se vogliamo, e qui parla, appunto, fa una critica, esatto, una presa in giro, se vogliamo sottolineare più l'aspetto ironico, di quella tendenza della sinistra istituzionale e dei giornali adesso collegati, come ad esempio l'Unità, se vogliamo, a disconoscere ogni, ne parlavamo prima tra l'altro, di ogni possibile radice ideologica comune con coloro che praticavano la lotta armata. E questo, su questa linea, quindi appunto dalla situazione politica del 78, questa era la, diciamo tra virgolette, deriva, e seguendo questa deriva si arriva, l'Unità arriva a scrivere che il Corrado Alunni, terrorista appena arrestato nel settembre 78, mi sembra, a processo, avrebbe, secondo l'Unità, fatto uno strano discorso sulla crisi del capitalismo, cioè praticamente si era arrivati a disconoscere e a definire come strano anche questo. Questa è, diciamo, la parte, diciamo, più riassuntiva del discorso di Spazzali, che è molto incisivo e allo stesso tempo, secondo me, divertente, vorrei. Possiamo ascoltarlo, direi. Certamente, andiamo. Ecco. Meglio. Eccoci. No, evidentemente io non sono un esperto di terrorismo, ma comunemente sono ritenuto un terrorista, per cui è quanto di meglio si possa richiedere in un dibattito di questo genere. E io vorrei fare, per mantenermi nei limiti di tempo che sono stati giustamente e equamente concordati, anche se mi assento perché purtroppo non c'ero, sviluppare solo due argomenti. Uno è un argomento che riguarda rigorosamente, cioè riguarda specificamente il libro di Bocca, no? Perché mi sembra giusto, no? Cioè stiamo discutendo di questo. Devo dire che io conosco Bocca, ho seguito anche recentemente i suoi lavori anche sulla stampa, anche per quanto riguarda il processo di Torino, e poi ho visto questo libro e ne ho ricavato la seguente impressione, che c'è effettivamente una certa anomalia, no? Del suo libro rispetto a quanto generalmente viene scritto sulle Brigate Rosse, sul terrorismo, eccetera. Però si tratta, e dico cosa che a Bocca ho già detto comunque, si tratta di un'anomalia assai strana. Cioè, mentre normalmente c'è un indaffaramento micidiale, no? Non dico del Corriere della Sera, di Repubblica, e del Giorno, eccetera, a spiegare che sono tutti matti, no? Cioè erano prima sani, ma poi quando hanno conosciuto quello lì, ma sono impazziti, eccetera, così, davano i numeri, no? Mangiavano solo vegetali, no? Cose di questo genere. Bocca non ha mai fatto questo, no? Non non ha mai detto Curcio e Franceschini prima mangiavano carne, poi a un certo punto mangiavano solo vegetali e avevano gli occhi fluorescenti. No, non ha mai detto questo. Lui ha scritto, e in sostanza scrive in questo libro, che il tipo di diciamo mitologia, e per questo io chiederei che per esempio Spinelli dicesse qualche cosa, perché l'unità su queste cose ha scritto delle cose abominevoli, no? Devo dire, no? Cioè incredibili sul fatto della follia, dicendo che erano proprio una roba, non si capiva se erano fascisti, marziani, no? Così, ultraterrestri, ma chi cazzo sono, insomma non si sa. Vogue non ha mai scritto questo, e il libro non ha mai scritto. Lui dice però, secondo me è una cosa assai più pericolosa dal punto di vista del dibattito politico. Cioè lui dice, ma che? Questi non sono morti per niente, non sono strani per niente, marziani manco per niente, perché in realtà, a parte le storie personali, che però hanno tutti, le storie personali c'erano tutti, i socialisti, i comunisti di ogni tempo, no? A parte le storie personali, in fondo non fanno che sbandierare dei miti, no? Argomento che ritorna nel seguito del discorso di Bocca, dei miti che, guarda caso, non sono affatto dei miti di alcuni pazzi nati nel 1968, ma guarda caso sono i miti caratteristici e tipici del movimento che si è chiamato comunista da 100 anni a questa parte. Per cui il ragionamento che fa Bocca, e io prego che Bocca mi smentisca su questo, ma credo che non ci sia problema, è che Bocca dice, storicamente esiste una lunga storia di una mitologia che ha fatto proprio lo strumento della violenza, l'obiettivo del rivolgimento di rapporti sociali e tutte queste robe qua, che poi si chiama comunismo, no? E che in certi momenti ha avuto felici esiti, no? In altri momenti infelici. Oggi si chiamano le Brigate Rosse. Per cui i matti non sono Curcio e Franceschini, matti sono tutti, capite? Quelli che si sono ispirati da 100 anni a questa parte a questo tipo di ideologia. Per cui questa è la differenza chiave del discorso di Bocca rispetto a quello, non dico di Repubblica, del Giorno o del Corriere della Sera, che francamente me l'aspetto, ma anche dell'Unità. La quale l'Unità a questo punto dice, noi, per l'amor di Dio, mai sentito nominare, no? E invece Bocca dice, ma come mai sentito nominare? Sfogliamo gli archivi. Ecco. Credo che, personalmente credo che Bocca abbia ragione, no? Salvo su una cosa che, sulla quale invece sono in totale disaccordo, come sappiamo, disaccordo politico. Che io politico bravo. Che è quello di proporre all'esame se tale, diciamo, mitologia, non so come lo si vuole chiamare, faccia parte di un bagaglio di tipo fantasioso, insomma, dell'esperienza dell'umanità, insomma, o di certi uomini, oppure sia un fatto reale, che muove forze reali. Però secondo me in questo senso gli articoli di Bocca e il suo libro di cui questa sera discutiamo ha almeno questo vantaggio, no? Almeno questo ce l'ha, cioè di porre la questione dicendo, ragazzi, non è che questa specie di discorso mai sentito nominare, capito? Ma cosa sarà? No? E come, non so, io non ho sentito il discorso di alunni qui al processo perché né lo difendo né ero presente avendo altro da fare, ma quello che il giornale radio diceva, e poi non so, poi l'Unità riprendeva, diceva, egli ha fatto uno strano discorso sulla crisi del capitalismo. Oh, ma cosa sarà? Ma ragazzi, non è serio questo, ma... Ecco, allora da questo punto di vista io credo che Bocca ha aggiunto qualche cosa, ha spostato, diciamo, la contraddizione, non so se in avanti o di lato, ma insomma comunque l'ha spostata, no? Per cui effettivamente questo discorso qui è degno di essere preso in considerazione, cioè che o matti sono tutti oppure non è che sono solo Curcio e Franceschini, però eccoci tornati in onda, quindi credo che tu sia un po' stanco ormai, visto che abbiamo fatto 47 minuti dopo la mezzanotte, Eppure qui ci sarebbero ad aprire parentesi molto lunghe, insomma, e dispendiose, che ci evitiamo, credo che tu sia d'accordo, di fare almeno a quest'ora di notte, perché abbiamo una cosa un pochino più leggera. Andiamo poi, penso che ci siamo, Paolo Liguori abbiamo ancora, sì, vabbè, intanto così anche avvertiamo, avvertiamo ascoltatori e ascoltatrici, abbiamo gli Schiantos insieme a Bifo, credo, che assaltano un certo tipo di convegno di cui ci parlerà della cooperativa scrittori. Perfetto. Poi abbiamo una, diciamo, una voce che qui a Radio Onda Rossa non avete mai ascoltato, almeno in tempi recenti, credo, ma forse proprio mai. Però una radio che è sempre qui di Roma, credo questo qui sia quello di Radio Città Futura, vero? Paolo Liguori. Sì, è in collegamento con Radio Città Futura. Città Futura, sì, che fu la radio più libera, diciamo, la radio di quel movimento di cui parlavamo all'inizio, la prima a Roma del 1976, quindi la prima di Radio Onda Rossa. E poi abbiamo Bruno Brancher. Molto bello, un intervento molto interessante, quindi ne abbiamo ancora tanti, e i licenziamenti della Fiat. Dai, andiamo quindi in rapida sequenza, iniziamo con gli Schiantos, va bene? Poi lo commentiamo. Perfetto. Vai. Allora, parliamo del convegno della cooperativa scrittori. È abbastanza semplice. Allora, il convegno è un convegno, diciamo, lunghissimo, in tre giornate, e ci sono, cioè, la registrazione integrale o quasi integrale, sono più di 5 ore su Italian Step Archive. In realtà, adesso diciamo che nel convegno ci sono alcune cose interessanti e tante altre invece noiose. Ho scelto, diciamo, questa performance che ci sta alla fine del convegno, performance non prevista, di disturbo più che altro, che viene fatta dagli Schiantos. Chi sono gli Schiantos? Mi sa che lo sappiamo quasi tutti, sono diciamo un gruppo musicale bolognese. Forse i maggiori esponenti di quello che da qualcuno verrà definito con un termine che non mi piace molto, però verrà definito nuovo rock. E diciamo, quando si parla di 77, del movimento del 77 bolognese, diciamo che gli Schiantos vengono in mente abbastanza facilmente, diciamo. Allora, stavamo dicendo, gli Schiantos protagonisti, diciamo, in questo caso, siamo al convegno della cooperativa scrittori, atmosfera, come ho detto prima, abbastanza pesante da convegno di intellettuali, c'è tutto un prendersi sul serio, liti su questioni puramente teoriche, che sinceramente poi io ascoltando non ho neanche perfettamente capito, devo ammetterlo. E gli Schiantos vanno al convegno, partecipano tutti e tre i giorni, non ovviamente non sono stati invitati, e tentano di sabotarlo in vari modi. È una descrizione, diciamo, nella descrizione del video che ho caricato su YouTube, c'è un link in cui si documentano tutte queste, diciamo, varie performance o tentativi di sabotaggio da parte degli Schiantos, e per questo ringrazio Giuliano Spagnol e Lillo Torchi in persona Caronia, che mi hanno fornito gli articoli su questo convegno, perché hanno partecipato anche loro come un'ambigua utopia. Insomma, dopo operazioni di disturbo, siamo alla fine della tre giorni di convegno, gli schiantos prendono la parola per annunciare, si fanno dare la parola e annunciano il rapimento di Mondadori da parte delle Brigate Rosse. Siamo sempre nel 1978 e siamo, insomma, se ne post mori, insomma, in quella situazione delicata di cui abbiamo parlato prima. Ne segue quindi un siparietto abbastanza divertente tra gli organizzatori che deprecano il cattivo gusto di questo scherzo e gli schiantos che invece continuano a rilanciare sempre con gli stessi toni. Bene, no vabbè, Paolo Liguori ne parliamo dopo, dai. E andiamo con gli schiantos, vai. Radio Onda Rossa 25 o'clock, 87.9 della modulazione di frequenza. Chiamiamo questa serie di puntate gioco di specchi. Quindi andiamo con gli schiantos. Forse partiranno, c'è una pausa molto lunga. Vediamo quando andrà. Una risposta, eccolo, polemica a Facchinelli. Facchinelli è il mio editore. I miei rapporti si ricompongono con Facchinelli perché è il mio editore, questa è la mia qualità di autore, ma non ho terminato. Per favore, ho bisogno ancora di un momento perché la sua battuta è stata pesante politicamente. Scusami allora. Mi interrompo, ovviamente. La notizia dell'ultima ora. No, poi... Abbiamo le prove. Abbiamo un nastro. Abbiamo un nastro dove c'è la registrazione del rapimento di Einaudi. No, di Mondadori. Comunque non ridete tanto, mi cancia da ridere. Che cazzo ridete? Sentite le ultime parole del rapito. Insomma, lasciamo come sottofondo questa musica, che è la musica che è stata usata da sottofondo per le, dalle BR nell'ambito del rapimento. No, la parola alla difesa. La parola, no, di nuovo torna a Leonetti. Sono, ma chi è questo Leonetti? Queste sono delle vecchie buffonate che hanno una vecchia storia, così che qui non vogliamo ripetere all'infinito. Siamo stati, ma noi volevamo dibattere. Ma volevate dibattere, vi iscrivete a parlare, adesso siamo iscritti, parlare. Siamo iscritti, ci deve essere un foglio. Per un momento, ci deve essere un foglio. Ci siamo iscritti anche noi. In questo momento sta parlando Leonetti. Leonetti? Non c'entra niente. Leonetti non c'entra niente. Secondo me c'è un intervento importante da portare avanti sull'editoria. Mi sembra che, come dicevamo prima, è in crisi, no? Parliamo di questo. Parliamo di questo anche perché questo fatto di cronaca più che nera, il rapimento che risale poche ore fa da parte delle Brigate Rosse dell'editore Mondadori a Roma, ci pone di fronte con evidente chiarezza quelle che sono le nostre responsabilità. Stava parlando proprio di questo, Leonetti. Appunto. Del suo rapporto con l'editore. Allora vorremmo parlare anche noi. Bene, adesso parlate appena avrà. Io vorrei suscitare un dibattito. Se non un dibattito, se non vi vuole un dibattito, facciamo una votazione. Siamo. Chi vota cioccolata? Siamo. Chi vota? Votiamo cioccolata. Siamo. Lo so. Cioè, non si tratta qui di... Si tratta di scatenare una reazione, immagino, no? A me di Mondadori non me ne frega un cazzo. E fare questo lo immaginavamo, era presumibile. Ma lo leggete Topolino? Un cazzo. Comunque Dall'Agione, non so se c'è qualche opinione che può scaturire Dall'Agione. Io credo che sarebbe interessante sentire questa voce. Importante. Ma sono giovani, non fate gli spiritosi! No, e siete fatti! Ma non fate gli spiritosi! Ma siete fatti totalmente! Viva in vacca tutto! È una cosa seria questa! Vergognatevi! Delfisti, andate a lavorare! Non mandate in banca tutto quanto! Volevamo discutere dell'editoria, no? Andate via! C'è ancora una bottiglia di acqua minerale piena! Vedi che gente! Si diceva agli interpreti dell'ultimo sketch che la cosa che si poteva criticare non era tanto la contestazione, ma quanto la replica di un gesto che è stato fatto da 60 anni, sempre replicato nello stesso modo e sempre con minore povertà intellettuale. Si diceva che l'avremmo apprezzato se ci fosse qualche tratto di novità nel comportamento e nelle idee. Quello che si diceva era proprio che la cosa che ci preoccupava era così il fatto che ci fosse una specie di replica di un vecchio copione. Quindi rientravano pure loro in un'operazione che apparteneva a vecchi discorsi che erano stati fatti. E il caso, per esempio, se qui il discorso teorico sembrava in difficoltà, diventava, qui si aveva la conferma che anche diventavano quasi, si è quasi alla paralisi, alla semplice ripetizione, non è soltanto il bla bla del discorso teorico, ma esiste un bla bla dei comportamenti di questo genere. Quindi il fatto allarmante è che non ci sia un'invenzione neppure nella provocazione, ma che sia sempre con questa, per il fatto di essere ripetuta in modo meccanico, ha una sua brutalità che non risolve più niente. Quando si risolve... Allora, si stava parlando con... Divertente? E perché? Chi è divertente per chi? Lasciatelo così com'è. Noi siamo simpatici, andiamo a farci passare per brigatisti rossi. Eccoci, siamo tornati in onda. Quindi dopo questo così, questo vecchio documento di quella che era un po' tipica dell'epoca, poi diciamo è diventata anche oggi, non come diceva l'interlocutore, 60 anni per, all'epoca, insomma 60 anni prima, la, forse oggi insomma è, alle volte è talmente così questo tipo di ormai di, talmente standardizzato, talmente mainstream in certi casi, talmente non so, insomma, all'epoca probabilmente gli Schiantos facevano un lavoro di destrutturazione effettiva del, di un certo di una certa costruzione intellettuale ingessata, insomma, con la, la freschezza invece del punk, appunto, che andava a distruggere questo tipo di boh, non lo so, insomma, è sempre difficile commentare, forse anche sbagliato commentare, lasciando appunto l'espressione artistica lì dov'è. Pronto? Ci sei? Sì, ok, sì, ci sono. Okay. Niente, no, commentavo, ma mi sono accorto che poi invece in realtà è forse sbagliato commentare, bisogna lasciare per quel che è, cioè la distrutturazione provocata da, da Roberto Fricantoni, dagli Schiantos in, rispetto appunto a questi convegni ingessati dell'epoca. E dicevo, molte volte poi ormai oggi è vero, probabilmente è vera quella cosa che diceva alla fine, non so, il loro interlocutore ufficiale, il relatore ufficiale. Oggi si è arrivati invece poi all'utilizzo così veramente alle volte specioso del, dell'interruzione, del, alle volte in maniera proprio inappropriata, sbagliata, semplicemente appunto per andare su internet, sui social, no? Tu che ne pensi? Non hai, guarda, non riesci a sentire quello che dico. Non, veramente a strazzi. Va bene, dai, va bene, non ti preoccupare, tanto dobbiamo andare avanti. Passiamo alla successiva clip. Stiamo parlando appunto di Radio Città Futura, l'abbiamo detto, con Paolo Liguori, che fa il corrispondente invece da Porto Empedocle, se non sbaglio, no? Esattamente, bravissimo. E Roberto Mander è un anarchico che era stato mandato al confine. Allora, prima abbiamo parlato di leggi speciali, di legislazione speciale, quindi di reati associativi, per cui appunto, lo diceva il compagno dell'epoca di Radio Onda Rossa, no? Se te eri semplicemente conoscente, amico, se condividevi, avevi condiviso in qualche maniera un appartamento con una persona, immediatamente eri il capo, il capo dell'organizzazione di lotta armata del caso. E sempre in quegli anni viene reintrodotta la legge reale, è ancora, tra l'altro, fa parte dell'ordinamento giuridico italiano insieme al codice Rocco, debitamente modificato in alcuni punti, ma comunque nella struttura ancora presente. Legge reale che prevedeva, essendo parte del codice fascista, prevedeva il confino degli oppositori politici, insomma, e quindi questo è il caso che ci racconta Paolo Liguori, giusto? Assolutamente sì, cioè, nel senso, non ho tantissimo da aggiungere, perché diciamo hai già spiegato benissimo tu. Diciamo che prima probabilmente veniva usata perché allora Mander viene mandato in confino a Linosa, nell'isola di Linosa. Prima era stata usata più volte come confino per, diciamo, per reati di mafia. In questo caso viene mandato Roberto Mander, che è un anarchico, appunto, e come, che poi, no, ho detto reati, non è neanche corretto in questo caso, perché veniva usata come misura preventiva il confino politico. E questo caso però, diciamo, che un po' si ritorce contro alle istituzioni, perché diventa un caso mediatico in cui gli abitanti di Linosa sono stanchi di ricevere delle persone in confino e quindi protestano. E diciamo che questo fatto viene diciamo seguito da mediaticamente. Le radio libere a questo punto seguono in prima fila questo evento, c'è tutto un giro di cassette tra le radio siciliane e le radio delle principali città italiane. Volevo citare Radio Faraci, che è della provincia di Agrigento, e Radio Sud di Palermo, seguono in prima fila il viaggio di Mander verso Linosa e mandano al telefono, in collegamento telefonico, mandano informazioni alle radio di Roma, Milano, Firenze e Bologna. Diciamo nell'estratto che ascoltiamo adesso. Ci siamo persi il compagno, proviamo subito a recuperare la comunicazione. Ok, ci sono? Ci dovremmo essere, vai. Ok, perfetto. Allora sì, scusa, allora, eravamo rimasti che dicevi appunto che c'era stata una reazione e c'erano appunto vari corrispondenti delle radio siciliane che mandavano le cassette alle radio romane. Perfetto. Allora, in questo caso noi ascoltiamo un estratto in cui c'è una persona che in qualche modo forse dovremmo riconoscere, perché si tratta di Paolo Liguori. quello proprio lui, quello di studio che poi dopo diventerà direttore di studio aperto. Allora, brevissimamente, Paolo Liguori era un personaggio che nel movimento a Roma era abbastanza noto con il nome di Straccio. Liguori in questo caso, per conto del giornale Lotta Continua, si reca in Sicilia per seguire il viaggio di Mander, in questo caso fa da cronista e penso in collegamento con Radio Città Futura, ma non ne sono perfettamente sicuro, e da aggiornamenti. Sapresti collocare come data proprio questa roba qui rispetto a più o meno? Come cosa? Come data? In che anno siamo? In che mese più o meno? Ah sì, allora non dovrebbe essere molto difficile, dovrebbe essere. Va bene, lo cerchiamo, dai. Quando Mander viene mandato al confino? Come? Credo 78. Va bene, dai. Adesso cercheremo di dare conferma se riusciamo a trovare un rapido confronto in rete. Intanto manderei quindi l'audio, se sei d'accordo. Sì. Posso mandare l'audio, se non hai nulla da aggiungere ancora? Ascoltiamo. Vai. Parla! No, anche se non vi sento. Comunque, volevo dirvi questo. Siamo qui da Radio Faraci. Stamattina abbiamo letto con Roberto, lui non è presente qui alla radio, perché non può muoversi. La sua situazione attuale è questa, ve la spiego un attimo. Ieri a Porto Empedocle la questura ha irrigidito un po' il suo atteggiamento. Roberto non può muoversi dal comune di Porto Empedocle, anche se non può ancora partire perché la nave che si è partita, chiamata urbana urgente per considerarsi già stato il confino, e per questo non può muoversi dal comune. E questa è la situazione. Stamattina è venuto fuori delle cose molto gravi sui giornali. Innanzitutto la Sicilia, un giornale di Catania, ha titolato il suo articolo con questo titolo, il nappista Mander all'Inosa. Vi dirò poi che iniziative Roberto ha pensato di prendere. Poi anche sui giornali nazionali sono venute queste notizie, tipo il titolo sulla Repubblica, che parlano di agitazioni all'Inosa, sono agitazioni contro lo sbarco di Mander, e il titolo era la popolazione, insomma non mi ricordo bene, ma era un titolo che faceva, ne abbiamo discusso con Roberto, era un titolo che faceva pensare a un lettore così a una possibile ripetizione del caso Freda e Ventura, associando così, ci sembrava un titolo che servisse a criminalizzare insomma questa cosa. La situazione all'Inosa com'è in questo momento? Ieri c'è stata una riunione degli abitanti dell'isola, soprattutto una serie di giovani, contro il fatto che l'Inosa venga di nuovo usata per il confino di polizia. Quest'isola ha dei precedenti storici di essere sempre stata usata per questi motivi. Gli abitanti di Inosa non sono contenti di questo, insomma non sono assolutamente contenti, perché addirittura insomma esiste una leggenda su di loro. In questa zona loro vengono chiamati coatti perché da 50 anni sono associati all'idea di confino, sono associati sui giornali, sulla stampa nazionale a un'idea insomma di assise della mafia italiana. Adesso questa cosa era finita con la partenza degli ultimi mafiosi, sta ricominciando clamorosamente con questo caso Mander, e poi loro hanno notizie, e queste sono le notizie che circolano all'Inosa, non so se siano vere o no, ma comunque sono i motivi che stanno al fondo di questa protesta, hanno notizie di una serie di altri 40 confinati, che quindi questa cosa ricomincerebbe di nuovo l'uso di Linoso da parte dello Stato come isola confine. Per di più insomma, i confinati hanno la questione che devono essere messi in condizione di lavorare. Questo problema del lavoro è il problema che sentiva una parte di quelli che si sono riuniti, i giovani iscritti alle liste, sono 37 giovani e si sentono ancora una volta scavalcati, hanno un atteggiamento insomma giusto di protesta contro il fatto di essere considerati cittadini di serie C. Queste sono le cose reali che ci sono all'Inosa, al di là delle strumentalizzazioni della stampa su questi episodi. Il problema è che di fronte a queste cose noi abbiamo discusso, loro si sono ancora riuniti oggi, hanno protestato col comune, ma questo non ha nessuna analogia, insomma, con i precedenti del Giglio, perché la questione non riguarda in particolare la persona di Roberto, anche se tutta la stampa tende a presentarlo come il pericolosissimo terrorista e alcuni telefonano al livello per cercare di aizzare gli abitanti in questo senso. La questione non è specifica su Roberto, ma è sulle loro condizioni e sul loro rifiuto di essere usati come carcerieri, insomma, come custodi per sempre di questo confine. Vogliono levarsi questa cosa di dosso, non vogliono più essere l'isola dei confinati. Questa è la loro protesta. Al momento non sappiamo, loro avevano anche parlato di impedire lo sbarco, poi oggi sembrava che invece questa cosa non ci fosse. Al momento non sappiamo cosa troveremo domani, perché noi siamo a Porto Empedocle e non a Linosa. Ma comunque Roberto ha fatto una sua dichiarazione rispetto a queste cose che riguardano un po' tutti gli avvenimenti di oggi, le cose dei giornali e la sua, insomma, le sue posizioni rispetto a questi fatti. Adesso ve lo leggo, mi sentite? Ve lo leggo. Sì, sì, Stracchi, ti sentiamo. Questa è la dichiarazione di Roberto Mander che ha fatto oggi. Porto Empedocle, 16.278. Mi dichiaro pienamente solidale con la presa di posizione dei 37 giovani dell'isola di Linosa iscritti alla lista del preavviamento e ancora senza lavoro. Io sarò senz'altro il 38esimo e se a me sarà trovato un qualsiasi lavoro sarà senz'altro a scapito di uno di questi giovani. Il confinato, tra virgolette, e gli abitanti dell'isola, ma quella che vede me e gli altri 36 e gli altri giovani disoccupati contro le autorità. Colgo qui l'occasione per annunciare che ho deciso di querelare il giornale La Sicilia per diffamazione dopo il titolo che è uscito oggi in prima pagina, virgolette, il nappista Mander a Linosa, chiuse virgolette. Dall'accusa di nappista sono stato prosciolto in istruttoria nella primavera del 76. Mi sarei voluto recare questa mattina alla Procura della Repubblica di Agrigento per presentare personalmente la querela come prescrive la legge, ma questo mi è stato reso difficoltoso dalle locali autorità di pubblica sicurezza, che hanno le locali autorità di pubblica sicurezza che hanno detto che non poteva recarsi ad Agrigento, quindi adesso questa denuncia Roberto la sta facendo tramite avvocati per telefono, cioè gli dà la delega e vede cosa si può fare. Ritengo sia un mio diritto inalienabile quello di difendermi da chi mi calunnia, da chi tende a creare intorno al mio nome questo alone di personaggio pericoloso, e che sia preciso dovere delle forze di PS farmi espletare questo mio diritto. Questo è il comunicato di Roberto in seguito ai fatti di oggi. È chiaro che... Pronto, ci siamo. Siamo tornati in onda. Ecco. Ci siamo. Allora, abbiamo ascoltato quindi questo stralcio, sempre breve stralcio, un punto in cui si riconosce Straccio Aca Toliguori. L'audio successivo lo ritengo molto importante, forse la cosa che mi è piaciuta di più di tutta la selezione di questa sera, proprio per la il significato, la presenza di significati importanti. Stiamo parlando di Bruno Brancher, quindi anche qui dovremmo aprire una lunga parentesi di spiegazioni e quant'altro, quindi inquadrare il personaggio di Brancher, che però è tipico di un'epoca, no? Che è quella delle bande, diciamo che più o meno politicizzate nell'area milanese e non solo, insomma, essenzialmente nel nord Italia, e quindi di persone che vengono essenzialmente dall'area dal sottoproletariato, da quello che potremmo descrivere come sottoproletariato, che conoscono il carcere molto presto, che comunque non hanno altro che non cercare di sopravvivere appunto nella giungla di quell'epoca, nelle città che diventano industriali in maniera molto rapida e veloce, e quindi senza fare sociologia comunque sono sono questo tipo di substrato sociale, insomma, che questo tipo di figura sociale irriducibile, e quindi non esiste carcere, eccetera, che in qualche maniera poi si interseca con quello che sono il decennio rosso, quindi dal 68 i compagni, le compagne che cominciano a frequentare le carceri, si scambiano esperienze, molti di loro studiano, crescono, diventano militanti politici, insomma, e potremmo, no, citarne tantissimi, e c'è questo intervento molto interessante. Questo succede perché vuoi andare avanti te? In che occasione, in che circostanza Bruno Braucher parla, in seguito a quali fatti? Ok, allora diciamo che hai raccontato perfettamente il personaggio di Bruno Braucher, non ho tantissimo da aggiungere, semplicemente che lui nel dopoguerra era sostanzialmente un ladro. Apparteneva alla mala milanese che veniva definita ligera, e è stato politicizzato in carcere, aveva conosciuto il Soccorso Rosso, di cui abbiamo parlato prima, tra l'altro, ed era diventato un personaggio noto nel movimento a Milano. E qui si presenta proprio come nella commissione carcere, della commissione carcere di lotta continua. Solo per puntualizzare, ma hai già descritto perfettamente tu, invece, che cos'è l'evento a cui lui partecipa? Questo è un evento abbastanza importante, soprattutto importante quello che era successo qualche giorno prima a Roma, perché a Roma siamo nel febbraio del 79. Ne abbiamo già parlato negli interventi precedenti più di una volta, piena repressione post caso Moro, e tra l'altro due mesi prima del quel famoso 7 aprile che abbiamo già descritto precedentemente, a Roma nei locali di Radio Proletaria si sta tenendo un convegno sulle carceri, apparentemente un convegno normale, che se ne facevano tanti tra l'altro di convegni sulle carceri in quegli anni, solo che quel giorno la polizia irrompe e arresta 27 persone per associazione sovversiva, poi verranno rilasciati un po' alla volta, però intanto li arrestano. Tra gli arrestati c'è Severina Berselli, che è la moglie di Dante Notar Nicola, tanto per citare un altro di quei personaggi che stavi descrivendo. Certamente. Prima. E ci sono Silvia Ruggero dell'Associazione Senza Galera, due compagni della redazione di Radio Tupac di Reggio Emilia, e lo stesso Roberto Mander, di cui avevamo parlato prima, che nel 78 si è fatto il confino, nel 79 si fa il carcere. E allora perché Bruno Braucher interviene? Perché era presente anche lui a quell'evento di Radio Proletaria. Qui siamo invece a Milano, fanno un convegno per denunciare questo fatto in Palazzina Liberty, dove si riuniva di solito il Soccorso Rosso, tra l'altro, fanno un evento e Bruno Braucher interviene per raccontare come sono andate le cose, perché lui c'era. È quello che andremo ad ascoltare. Due precisazioni ancora, vabbè, Radio Proletaria, insomma, sta ancora, trasmette ancora, però solamente come radio web. Qui a Roma si trovava diciamo in via di Casal Bruciato, e faceva questi convegni perché in realtà il palazzo da dove trasmetteva era totalmente occupato, e c'aveva la parte sotto, diciamo, veniva da un'occupazione abitativa, c'aveva la parte sotto che era appunto un posto abbastanza grande che c'erano delle sale, insomma, che erano idonee sì, no, tanto per chiarire così anche storicamente, perché appunto non sai, di solito la sede di una radio, specie anche di una abituata alle web radio oggi, che stanno dentro un appartamento, insomma, dentro, quindi tanto per capire perché questa cosa. E basta, penso. Sì, penso che possiamo andare ad ascoltare questo. Ah no, e la cosa che appunto Branch è affetto, insomma, in maniera abbastanza evidente, lo ascolterete, da un difetto così di pronuncia, da un zagaia, come si dice qui a Roma, insomma, da una certa balbuzia. Sì. Questo non lo ferma affatto, è un personaggio di quelli appunto dirompenti da sto punto di vista, perché non si fa proprio nessun problema, e non si fa nessun problema nemmeno chi sta intorno a lui, insomma. Quindi questa cosa è anche questa umanamente rilevante, secondo me, in un'epoca dove da una parte si fa bullismo, dall'altra parte vittimismo, che alle volte sono in realtà la faccia della stessa medaglia. C'è invece qui da rilevare appunto un fatto che non ci si bada proprio a questa cosa, semmai magari si prenderà anche in giro, ma tutto sommato ci si prende tutti in giro, e quindi alla fine non succede niente. Così come è nota a margine. Ascoltiamo, dai. Eccoci. Peraltro qua mi viene un po' difficoltoso a esprimermi, anche perché non è che sono abituato con questi aggeggi qua, che capisci un caso. Comunque, allora, i fatti lo sappiamo tutti come si sono svolti. Un convegno fatto il 2-3 dicembre a Roma, dove dei poliziotti, a quel convegno, non per fare il sopravvissuto, c'ero anch'io. Allora, quello più che altro, l'intervento mio come principio è una testimonianza. Intanto, non è affatto vero che in quegli interventi fatti sulla lotta per le carceri, in quel convegno sulla lotta per le carceri, c'è stato, come si chiama, un'incitazione alla lotta armata. C'erano sì due o tre poliziotti della Digos dentro, e come avevo detto al convegno operai, erano perfettamente mimetizzati. Tanto vero che un bambino piccolo li ha additati subito a sua madre e ha detto: questi sono i poliziotti della Digos. Sembra una barzelletta, comunque non è una barzelletta, perché mi sono meravigliato anch'io, perché era proprio al fianco mio ed ho sentito io questa frase qua. Ma questa frase, compagni, al di là della risata che può suscitare, è indicativa, nel senso che tutti i compagni presenti hanno riconosciuto questi poliziotti, e nessun compagno oggi è eroe, come si usa dire, chi fa la cosa sulle carceri a posto di scegliere la droga, sceglie la cosa sulle carceri, tutte queste palle qua. Erano coscienti che esistevano queste persone, e sono andati avanti negli interventi, ripeto, senza per questo fare nessuna cosa su lotta armata e compagnia bella. Si tratta cioè di una montatura, ma allora dobbiamo stare molto attenti. Questa montatura, questo rapporto è servito al PM Vitalone, al signor Vitalone, come giustamente viene citato in varie cose, per portare a termine una azione di polizia che ha conseguito come scopo di bloccare varie testate di giornali di controinformazione. Qua faccio una piccola denuncia anch'io. Ora, io sono il compagno Bruno della commissione carceri di LLC. Voglio dire questo, non ne immetto una polemica che noi abbiamo in piedi col giornale o con quello che oggi rimane di quel foglio. Voglio dire che tutti i discorsi fatti, tutte le dichiarazioni della libertà di stampa, eccetera, eccetera, pare che vengono fatti solamente quando vengono toccati grossi cose, cioè, qua si tratta anche di fare un discorso ben chiaro sulla libertà di stampa, appunto perché vari direttori e facenti parte di redazione, eccetera, eccetera, sono stati arrestati e portati dentro. È servito questo qua. Come si sono permessi, per usare una definizione un po' snobistica, di fare questa cosa? Il permesso l'hanno avuto dalla coscienza e addirittura dalla stampa borghese, che qualcuno di noi insiste a dire fa delle precisazioni che poi non è borghese. È illuminata, io dico che sarà, che se illuminazione è, sarà illuminata di luce sinistra proprio. Comunque il fatto è questo: vari depositari della verità hanno sempre parlato di troncare sul nascere qualsiasi forma di ribellione o di controinformazione contro questo stato qua, protetti da questo complice, da queste grandi complicità. Il potere si è mosso in nome di Vitalone, da sempre che si sa che è un uomo dei servizi segreti, cioè viene usato, ma a lui ha un piacere della Madonna ad essere usato. Al di là del personalismo, rimane questo fatto qua, appunto fanno irruzione e arrestano. Allora adesso infatti a mano sembra che scacciano tutti e questa grossa montatura cade, speriamo che sia così. Io ho dei forti dubbi. Siamo di nuovo tornati in onda e questo era il pezzettino di Bruno Brancher, o Brancher forse. Ultima cosa, sono gli ultimi 6 minuti e 27, poi ce ne andiamo tutti a nanna perché abbiamo insomma appesantito molto la notte di Radio Onda Rossa. Ci siamo allungati, ma ti ho detto, io te ne parlavo insomma privatamente, no? Guarda che andremo molto lunghi, perché poi fra un problema tecnico, un colpo di tosse e soprattutto i tanti commenti e le tante cose che vengono in mente nell'ascoltare queste robe di tanti anni fa, e dover confrontare un presente, dover ricordare anche lo sforzo alle volte, no? Di ricordare dei fatti che a malapena ricordiamo, che pure ci sembrano comunque relegati a un'altra epoca, ecco, a un altro mondo, a un'altra vita. In realtà poi non è così, perché gli agganci con il presente sono continui, o comunque i confronti, no? Che te fai con la nostra epoca, sono continui e profondi. Dunque, l'ultimo audio invece che ci hai selezionato e che noi abbiamo inserito in questo lungo file di 1 ora e 10 minuti sono 61 licenziamenti in Fiat, che è praticamente quello che succede poi nel 1979, se non sbaglio. Fine, autunno 79. Per chi volesse, per esempio, c'è il libro di Ines Arciuolo che non mi ricordo il titolo, però che tratta un po' tutta la sua vita, c'è un lungo capitolo dedicato alla sua vita in Fiat, a Mirafiori, e quindi di quello che è stato, e anche un'analisi politica interessante. Qui secondo me tocchiamo un po' un punto. Ecco, abbiamo detto non vogliamo parlare di politica, tutto sommato, no, stasera evitiamo di entrare troppo nel merito di quello che abbiamo trasmesso. Qui mi permetto di volerci entrare, cioè, faccio una deroga a quanto detto, a quanto riproposto. È importante ascoltare questo audio di operai gli operai che stanno in un'assemblea della Fiat, ricordare com'era la Fiat all'epoca. Si parla di licenziamenti perché si sono fatti dei cortei interni alla fabbrica. E queste cose qua, cioè la capacità operaia all'epoca, oggi è tutto da riparametrizzare, insomma, sarebbe tutto da riparametrizzare rispetto alla composizione del mondo del lavoro che c'è oggi, che non è ovviamente quello del 1979. Però questo tipo di immagine che ci suggeriscono questi audio, quindi questa capacità di chi produce effettivamente, poi mette le mani, mette i corpi, oggi potrebbe anche mettere la mente, per produrre, comunque per creare quello che è il prodotto che poi entra nella catena della produzione, della valorizzazione del capitale, è importante, cioè è importante capire come la coscienza di classe di queste persone fosse assolutamente ormai limpida. Era forse proprio qui, ma a Mirafiori e probabilmente in pochi altri posti, che si era giunta una capacità di politica così alta, insomma, di capire, di avere coscienza di classe, cioè coscienza di questo fatto di essere un elemento indispensabile alla produzione, e che in quanto elemento indispensabile alla produzione viene annullato come persona umana, e quindi recuperi la biopolitica. Ecco, questo è quello che volevo dire, questo è quello che mi ha suggerito quest'audio. Poi fate voi insomma se più o meno apriamo il dibattito su questo, nel senso, questo è un po' quello che mi sentivo di dire rispetto a quello che suscitano questi suoni e queste parole. Vai, dici tu, contestualizza invece nel... Certo, allora, innanzitutto sono perfettamente d'accordo con te, poi ci torno poi alla fine di quello che sto per dire. Allora, questa registrazione che, come hai accennato, parla dei 61 licenziamenti Fiat. Cosa sono 61 licenziamenti? Sono licenziamenti simbolici molto importanti. Quindi siamo nel 79, verrà definito questo come un 7 aprile in fabbrica, proprio per sottolineare il carattere repressivo di questi licenziamenti, che non contano tanto dal punto di vista numerico, ma proprio come valenza dimostrativa. Infatti questa poi viene sponsorizzata dalla politica e dai giornali come una manovra per combattere il terrorismo in fabbrica, che pure era una realtà, il terrorismo in fabbrica, però questi licenziamenti, nella verità delle cose, vanno a colpire soprattutto quelli che sempre in questa cassetta, ma non nell'estratto che stiamo per ascoltare, verranno definiti i cosiddetti rompicoglioni, cioè quelle persone, quei personaggi cani sciolti rispetto alle organizzazioni sindacali, che però in fabbrica erano in prima fila nelle lotte e avevano un certo peso. Questa operazione dà un segnale fortissimo in questo senso, e segnerà poi la fine di un'intera stagione di lotte in fabbrica. Per questo mi ricollego con quello che hai detto tu, c'era una certa coscienza, però qui siamo veramente alla fine, siamo alla fine del 79, per tutti gli anni 80 poi sarà un'altra musica, diciamo. Ultimissimo appunto, perché nel senso, ho detto solo cosa sono i 61 licenziamenti. Questo nastro è stato registrato a Torino, è l'intera registrazione di un'assemblea nazionale dell'autonomia operaia che si è tenuta a Torino, proprio perché lì c'erano state le lotte e poi i licenziamenti in Fiat. e un compagno del collettivo operaio SIAT legge alcune delle legge e commenta di licenziamento. Com'è? Legge e commenta certamente. Va bene, allora dai, sentiamo questo, poi ci facciamo i saluti finali e vediamo cosa esce fuori da questa puntata. Dai, tra poco parte, al solito qualche secondo di vuoto appositamente messo perché ci serviva proprio per fare la trasmissione. La risposta della Fiat è stata immediata, adesso voglio farvi leggere un attimo le contestazioni che vengono mosse in queste due lettere, che sono lettere diverse. Andate singolarmente, compagno per compagno, vengono contestate delle accuse precise. Considerato che il decreto 8 novembre 79, emesso dal pretore di Torino, si fonda sulla ritenuta nullità del negozio licenziamento per violazione della forma convenzionale stabilita dal contratto collettivo al fine di rinnovare le procedure, secondo le forme indicate con la presente le comunichiamo la revoca del licenziamento, intimatole con nostra del 17 ottobre 79 per il ritenuto vizio formale. Sopramesso le contestiamo i seguenti comportamenti che costituiscono trasgressione agli obblighi contrattuali e di legge: aver arbitrariamente abbandonato il posto di lavoro improvvisando plateali proteste che disturbavano il lavoro dei colleghi; 2. Avere in più occasioni iniziato in ritardo il lavoro causando disorganizzazione della produzione, e ciò in particolare nel periodo luglio-settembre 79. Avere più volte tenuto comportamenti minacciosi ed intimidatori nei confronti dei superiori, dei compagni di lavoro ed in particolare, come successivamente emerso, in data 17 maggio 79. Non si riesce bene a capire cosa è successo il 17 maggio. Avere invaso con altri, in data 3 settembre, gli uffici della direzione, scardinando la porta d'accesso, proferendo frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dei rappresentanti dell'azienda, costringendo successivamente gli impiegati ad abbandonare il posto di lavoro. Avere in più occasioni invitato gli operai alla lotta dura, in spregio degli accordi sindacali, scrivendo a tale scopo con il gesso anche frasi sulle scocche. Avere inveito contro i superiori in data 21 settembre dopo l'uccisione dell'ingegnere Guglielmo, mentre altri operai cancellavano le seguenti parole scritte sulla lamiera con il gesso: colpirne uno per educarne 100, la giustizia proletaria dimostra che ogni sbirro non è più nemmeno sicuro nella sua terra. Continua dicendo che confermato il licenziamento. Qui c'è un'altra lettera, contesta meno cose, forse perché questo compagno era più bravo. L'altro. Le cose che gli contestano sono: avere l'abitudine ad arbitrariamente abbandonato il posto di lavoro, fornendo una prestazione lavorativa scadente, con particolare riferimento agli ultimi mesi. Avere l'abitudine tenuto, in termini particolarmente evidenti, nei mesi di luglio e settembre, atteggiamenti intimidatori nei confronti della gerarchia. Aver fatto parte di un gruppo, partecipa ad un gruppo e condannato, no? Aver fatto parte di un gruppo che propagandava anche con volantini e manifesti affissi all'interno delle officine nel corso del 79, come successivamente accertato, il rifiuto del lavoro e la diffusione della violenza all'interno della fabbrica. Compagni, secondo me dico oggi, se potevano esserci dei dubbi, dico oggi il padronato, con l'avallo del PC, del sindacato, perché ci sono anche le sue responsabilità, visto che questi licenziamenti sono stati preventivamente trattati con il sindacato, oggi viene fuori che oggi ciò che ci viene condannato, ciò che ci viene contestato, ciò dico i motivi per cui ci vengo, dico veniamo in fabbrica licenziati e dalle altre parti dico messi in galera, oggi ci viene contestato il fatto di essere comunisti, il fatto di rivendicare all'interno dei posti di lavoro il nostro diritto di andare a costruire momenti organizzativi alternativi al sindacato, quello di andare a costruire momenti di lotta che partono dalle nostre esigenze reali, quelli di andare, dico, in ogni modo, dico, a tutti i livelli, andare a creare momenti di discussione con i nostri compagni di lavoro, di andare a costruire in tutti i termini, dico, di livelli più diversi, che la fantasia, che l'intelligenza operaia possono esprimere, momenti di lotta, articolazioni di lotta. Compagni, dico, proprio per questo, io penso che questo attacco, no, tutto sommato, proprio per queste caratteristiche, si ricollega a quello che è stato l'attacco che i padroni, la magistratura, hanno cominciato a sferzare il 7 aprile verso questi settori del movimento, verso quelli che erano i settori dell'autonomia operaia organizzata. Compagni, dico, io penso, dico, l'abbiamo detto anche in passato, dico, il 9 ottobre abbiamo subito detto che secondo noi, dico, questo oggi, per le caratteristiche, per ciò che rappresentava, era il 7 aprile, dico, rivolto all'interno della fabbrica. Oggi, appunto, allora, partiamo un minimo da queste cose. oggi ci viene negato, ci viene represso, ci viene limitato, ci viene negato il nostro diritto di essere comunisti. Oggi essere comunisti, oggi lavorare per andare a costruire momenti organizzativi, per andare a costruire un'organizzazione operaia, un'organizzazione comunista, radicata sul territorio, radicato all'interno della fabbrica, questo è reato. È reato questo. Perché? Perché non vogliamo smettere, non vogliamo fermare la nostra lotta contro il padrone, vogliamo rilanciare la nostra lotta per i nostri bisogni. Allora, secondo me bisognerebbe partire appunto oggi da questo attacco che ci viene fatto. Che ci viene fatto non solo dai padroni, non solo dalla magistratura, ma che oggi, proprio perché per tutta una serie di scelte politiche, per tutta una serie di strategie politiche, oggi andare a creare microconflittualità, oggi andare a creare momenti organizzativi autonomi all'interno della fabbrica va anche contro gli interessi politici, gli interessi strategici del PCI e del sindacato. E questo qui, qui possiamo essere tutti d'accordo, tutti convinti, però penso che oggi, da domani, da subito, con sufficiente chiarezza, bisogna cominciare a denunciare a tutti i livelli i ruoli reali che il sindacato, che il PCI oggi giocano all'interno della fabbrica, all'interno della società. Il loro obiettivo oggi è la congestione, è la normalizzazione, è la ristrutturazione, sono gli obiettivi della produttività, sono gli stessi obiettivi della Confindustria e del padronato. Oggi bisogna partire anche da queste considerazioni, che oggi il nostro obiettivo principale, resta quello di andare a costruire momenti organizzativi, quello di andare a rilanciare a tutti i livelli, in tutti i settori, quello che è stato il discorso dell'autonomia operaia. Eccoci, torniamo, mentre nel frattempo era partita la sigla che scalpitava, quindi questo l'ultimo audio. Sì, l'ultimo audio per questa notte, ormai abbiamo fatto 1:47, quindi tanto tempo. E... dimmi. Ce l'abbiamo fatta. Completamente una diversa dall'altra. Sì, ti ringraziamo per questa selezione. Sicuramente c'è tantissimo altro che avrebbe potuto essere inserito rispetto a appunto quello che era il ventaglio amplissimo delle lotte che c'erano in quegli anni. Non so nell'archivio quanto sia presente, ad esempio, mi viene in mente. E le lotte femministe sicuramente, o quelle per esempio per la chiusura, l'abolizione dei manicomi, o insomma veramente un ventaglio enorme di in cui quel ciclo di lotte. Sui due temi che hai detto, allora, manicomi non c'è nulla purtroppo, quanto sia un tema interessante. Sulle lotte femministe c'è qualcosa a Genova che mi hanno detto, non ce l'ho ancora, mi hanno detto che mi permettono di digitalizzarlo, quindi okay. Ci sarà a breve. Ci sarà a breve, ma invitiamo anche le compagne a questo punto a voler integrare, a mettersi in contatto con te qualora appunto fosse necessario, avessero dei documenti, dei materiali che credessero sia necessario inserire in questo archivio per farlo diventare ancora più ampio e diventare già quello che è, secondo me, cioè un punto di riferimento per chiunque, insomma, anche per motivi di studio o anche così per così fare un ripassino, che non sarebbe male, no? Delle puntate precedenti, invece di vivere molte volte così un presente che si pensa staccato e si crede che le conclusioni a cui si è arrivati oggi, poi appunto abbiamo attraversato da quegli anni fino ad oggi dei grandi periodi di riflusso, te parlavi degli anni 80, no? Che hanno un po' cancellato, obliterato tutto quel patrimonio, l'hanno banalizzato alle volte, l'hanno reso così didascalico quando più delle volte non lo era. Poi sì, anche in quell'epoca si possono leggere, per esempio abbiamo letto questa sera un'enorme logorrea, no? Comunque l'attitudine di oggi a usare i social e quindi a usare le 40 parole per scrivere i concetti non erano di quell'epoca, in cui No, no, assolutamente. Va bene, allora sicuramente noi ci risentiremo, perché vorrei, avevi preparato molte cose a livello musicale, adesso della parte, diciamo, dell'archivio che riguarda la musica, sempre più o meno di quel periodo, forse più vasta, arriva a tempi più recenti, e quindi tutta la parte del punk, dell'hardcore, dell'industrial, ho visto molte cose, no? Della sperimentazione in assoluto, tanti nastri che hai digitalizzato, quindi c'è pure lì mare magnum di cose da andare, sono tantissimi poi quelli, no? Dicevi prima. Sì, abbiamo veramente migliaia di cassette da ascoltare, faccio una selezione. Più che altro sugli anni 80, perché mi sembrava la cosa più, come valore assoluto, più significativa, però diciamo che il periodo d'oro della cassetta come diciamo divulgazione di musica è anni 80 sicuramente, fino a metà degli anni 90, fine anni 90, quando poi si diffondono i masterizzatori, e allora la cassetta va in pensione, per quello che, come la vedo io, cioè nel senso, perde poi quella funzione che aveva proprio di divulgazione semplice della musica, senza tanti frunzoli intorno, risorso tecnico, certo, diciamo. Certo. Va bene, dai, comunque ci dedicheremo una puntata a questo, te lo prometto. Se te ce la farai a resistere per un'altra puntata, forse dai, la facciamo un po' più breve, cerchiamo di commentare, sì, di magari, meno. Cioè, non è questione di lunghezza, secondo me questa volta è stato bello perché abbiamo fatto vedere un po' una varietà di cose che sono rappresentative dell'archivio, però sarebbe forse anche più utile concentrarsi su un argomento solo due, certo, per approfondirlo meglio. Certo, certo. Sì, vediamo dai come proseguire, non mettiamo limiti a quello che ci porterà il caos al solito e così gli istinti primordiali che ci porteranno comunque a andare a navigare dentro il materiale che hai raccolto. Sicuramente io come prossimo step appunto farei quella che poi hai tutto sommato, poi magari ci mettiamo d'accordo se vogliamo variare, modificare, accorciare, allungare qualcosa, quello che già hai mandato e che avremmo dovuto mandare in alternato questa notte. Ovviamente se avessimo fatto questo saremmo andati alle 6 a dormire, alle mattina, esatto, quindi lasciamo perdere, lasciamo perdere, quindi abbiamo diviso in due puntate, sicuramente una puntata la faremo, quindi ci risentiamo comunque con base quello che era il materiale che mi avevi proposto. Ci aggiorniamo più o meno fra un mesetto, diciamo indicativamente a metà febbraio, seconda metà di febbraio, dai. E vediamo di fare quest'altra puntata. Per ora ti ringraziamo tantissimo per il grosso lavoro che stai facendo di documentazione, che è un lavoro di documentazione, diciamo, per tutti, ma soprattutto un lavoro di documentazione che, malgrado tutto, scherzando e ridendo, ti sta facendo diventare in qualche maniera esperto, non tanto della materia semplicemente dello sbobinamento, ma anche di tanti fatti e di tanta storia più o meno recente del nostro paese, che altrimenti appunto nell'ottica della comunicazione social viene al solito banalizzata e distrutta, come sempre succede. Va bene. Niente, volevo solo... Vuoi fare dei ringraziamenti particolari a qualcun'altra? Uno semplicissimo. A salutare e ringraziare Grasso 9 che ci ha messo in contatto, quindi sono qui stasera perché insomma gli ho dato il mio contatto, quindi perfetto. Lo saluto e lo ringrazio. Perfetto. Poi appunto nel podcast della trasmissione che ti farò avere cercheremo di mettere, magari lo prepariamo anche insieme, cercheremo di mettere tutti i riferimenti in maniera corretta, in modo che chiunque voglia comunicare con te, con noi, riguardo all'archivio, alla trasmissione, eccetera, eccetera, abbia tutti gli strumenti per farlo. Va bene? Buonanotte allora e grazie ancora. Buonanotte, ciao Stefano, grazie mille. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Dreams under a communist moon.